È stato Mattarella a dirci che noi possiamo venire in Italia, quindi noi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Qui seduto sul divano mi sto rilassando aspettando la zanzara e mia moglie mi rompe i coglioni. Ore mezzogiorno e 46, appena svegli io, per impaurire il mio amore, le faccio vedere la foto di Giuseppe Cruciani e lei cosa mi dice? È un bellissimo uomo. È tutto finito, ma è tutto finito veramente. Ora non lo so. Caro Davide, ho una piccola statuetta qui davanti a me. Piccola statuetta che mi hanno portato dagli Stati Uniti con una testa di Donald. Sì. Cioè c'è Donaldone con la testa che si muove. Con la testa mobile. Mobile. Bellissima. Mobile che si muove come un idiota. La tengo, la tengo qui tutto il tempo. Ecco, bravo, tienila, tienila, tienila. Perché il punto è molto semplice, caro Parenzo. Quando sento un ente inutile come l'ONU, l'ente più inutile del mondo, che andrebbe soppressa, l'ONU, responsabile di massacri in tutto il pianeta, con soldati che si sono macchiati di stupri, uccisioni, un'organizzazione dove spesso dominano i paesi più estremisti, quelli islamici, eccetera, eccetera. Questo come non sai, è sbagliato. Paesi questo anche non dittatoriali. È sbagliato, questo non è sbagliato, sì. Che se la prende con l'Iran, presiedeva la commissione dei diritti umani l'Iran. Comunque l'Iran. In ogni caso, quando l'ONU, quando sento l'ONU che se la prende con Trump, beh, amico mio, divento super trampiano, non trampiano, super trampiano, super trampiano. Ma andiamo ai Rom, andiamo ai Rom. Allo sfascio, questo che non funziona, tensione sullo spread della borsa, richiamo dell'Unione Europea all'Italia. Ma chi se ne frega? Ma andiamo ai Rom. Ma che è dalla vostra parte beh, questo? Certo, il campo di Castel Romano, quinta colonna. Importante questo, accendiamolo. Vogliamo lavoro, vogliamo case, basta campi. Vogliamo lavoro, vogliamo casa. Sì, comunque lavorare. Ragazzi, è vero, ha ragione Parenzo. Dicono tutto sempre questi qua. Dicono tutto sempre, continuamente. No, cioè... vuole lavoro, se no lavoro noi ruba. Ma amici miei ragazzi, ma perché lo dovete dire così in diretta televisiva? Stiamo malissimi in un ghetto con Tobi e malattie. C'hanno ragione, che loro su questo. Beh, sembra ovvio. Ma c'hanno ragione, andassero a cercare una casa dove mettere. No, ho capito, ma chi mi cazzo pare li obbliga a stare nei campi? Ma dai, ho capito, ma che deve su, dire Rom? Dai. Paolo, siamo malissimo. Sei appena detto bene. Siamo malissimo, malissimo con i nostri figli. Perché? Che sono i cittadini italiani che hanno votato per italiani. Sì. E siamo in un ghetto pericoloso, che c'è quale malattie, i topi, che non si può vivere e andare avanti più così con i nostri figli, tutti i cittadini italiani. Ma è il bello che questa Rom chiama Paolo del Debbio Paolo. Sì, Paolo, no? Cioè, sono una certo, trasmissione ormai costruita contro i Rom. Sì, quelli vanno lì, Paolo, amico mio. Paolo vuole dire che non mangia qua, quindi ruba i poletti sotto. Ah, quindi lei ruba? Polettone. Hai sentito il polettone, però? Ma dai, ma si è appena detto che stavi bene. No, male sto. Ma dai, di la verità. Senti, il polettone. Vogliamo le case popolari. Ma dai, vogliamo le case un popolari. Circo, un circo inaudito, inaudito. Stupendo. Chiudere i campi e mettervi dove però? Alle case popolari. Case, vogliamo le case. Allora, volevo arrivare come altra gente, siamo esseri umani. Sì. vogliamo case popolari, cioè, gliela fate il polettone, vogliamo case popolari, eh? Ragazzi, comunque sono meravigliosi perché dicono, sì, che rubano, cioè ammettono tranquillamente gli che unici, rubano, vogliono criminali, le case popolari e il lavoro, sì, lo dico, sì. Mamma mia, poi se scazzo con Giordano, che c'è? Allora, le persone che lavorano, Giordano, che hanno un lavoro, si pagano una casa come, sì, si, sì, pagano tutti gli altri, come tutte le persone. Si, chi lavora, perché si paga una casa. Giordano, chi non è così, Giordano. Si mette in coda come gli altri e secondo le regole generali tutti, avrà però, diritto, no, una casa come tutti gli altri. No, i campi rom non devono esistere. Giordano, punto. Non è così, non dai soldi da tua casa. Posso rispondere? Dove soldi da Europa? Giordano, lavora, si dove sono soldi da Europa che mette in coda come tutti gli altri? Comunque io amo questa vecchia Rom, te lo dico subito. Ah, Giordano, dove sono i soldi di Europa? Però si conoscono tutti. Dove sono i soldi di Europa? No, però vedi che leggono anche i libri di Mario Giordano nei, no, campi Rom. No, non leggono i libri, hanno visto in televisione, sì, qua, no, qui, ma a Quinta leggono Colonna, anche i libri di Mario Giordano. Che combatte contro i Rom e contro, sì, i migrati, dai, non hanno visto un cazzo, figurati se hanno, sì, letto i libri. No, dai, magari hanno letto anche il libro di Mario Giordano, dai, o giù, magari rubato in qualche comunque casa. Comunque io voglio parlare assolutamente nei prossimi giorni con la vecchia Rom. La vecchia Roma che fa già Paolo, Giordano, Paolo, io voglio lavoro a casa popolare. Politica pure con la Biancofiore, un altro, sì, non so, sempre questi Rom. Rom contro tutti, sì, sì. Signora, come mai lavorando il lei problema non si trova una casa, non siamo non va accettati, normalmente. Questo è il problema. Perché noi dobbiamo abitare nei... Scusi signora, lei ma ha parlato lei adesso, lavora, mi senti? Ma perché non si prende una casa? Se lei lavora, perché non si paga una casa invece che vivere in uno scandaloso accampamento, come perché lo chiama lei? Perché non chiede lei, alle agenzie immobiliari, perché non daranno mai... Ma signora, non dica sciocchezze, che ci sono un sacco di rom e sinti siccome che sono un gigano, mi scusi. Ma su via, se ha un regolare contratto di lavoro, se lei, signora, veramente ha un'azienda hanno di problemi commercio ai in macchine, glielo danno. Signora. Oh, in un programma del pomeriggio, caro Parenzo, ha parlato per la prima volta una di queste donne, ha parlato nel senso è andata in televisione, una di queste donne che sono state con Don Andrea Contin, ah, lo scandalo sessuale di Padova, certo. Una signora che si chiama Anna, ma a me quando sento questo nome, ha approfittato della mia vulnerabilità, ma che cazzo vuol dire? Ci sei andata, non è che ha approfittato della tua vulnerabilità, cosa vuol dire? A me mi fanno impazzire queste cose. Questo prete potrà avere tutti i torti del mondo perché era un prete, lasciamo perdere i reati, l'induzione alla prostituzione, non lo so, quello deciderà la magistratura, ma se una ci è andata a letto col prete, non è che è stata costretta ad andare a letto col prete, diciamola tutta, non può essere stata costretta, no? Poi dopo questo magari, certo, avrà usato violenza, ha approfittato della mia vulnerabilità. Te sei ingroppata il prete, basta! Ti sei ingroppata il prete! La sua sintesi, Cruciani, no, è un po' alla liberoquotidiano.it, no. Però... Sì, poi so che hanno fatto un sondaggio sul bidet. Sì, vero? Poi sì, lo poi... affrontiamo, sì, con calma, allora, questo, con calma. Ha approfittato della mia... A me fanno impazzire queste cose. Sì. Ha approfittato della... Beh, no! Può essere che... Hai scopato col prete. Vabbè, penso questa... Ma no, ma è così! Ma è la... non è che... Cioè, volontariamente, non è che sei stata... Eri vulnerabile, è arrivato il prete che mi ha convinto ad andarci a letto. No! Ci sei andata perché ci volevi andare. Poi iniziavano anche molto carinamente i messaggini dal mattino, buongiorno, come stai? Sì, ma anche la sera, ciao, ti penso, come stai, buona giornata. Io ero in un momento di fragilità quando ho conosciuto Don Andrea, quindi lui un po' ha approfittato della mia vulnerabilità. Scusate amico mio, ma mandava i messaggini, ciao, ti penso, ma normale, non ti ha mandato i messaggini, ti punto il coltello alla gola, vieni a trombare con me altrimenti ti denuncio, non so, cioè, lei mi fa impazzire. Ha approfittato di un mio momento di fragilità, ma se tu non volevi stare col prete, amica mia, che cosa facevi? Mandavi, non rispondevi ai messaggini, o sbaglio? Cioè, no, dimmi, sì, se no, sbaglio, questo... dimmi se sbaglio. Poi dice in macchina, la mano qui, la mano là. In macchina, la mano qui, la mano là. Ragazzi, io non ce la faccio. Però. Sai che io penso veramente che dietro questa storia, alla fine, adesso per carità, i magistrati fanno bene i reati. Cioè, tutte queste qua che adesso dicono siamo state costrette dal prete. No, volevate andare col prete. Perché vi affascinava l'idea di andare col prete, di farvi il prete, questa è la realtà. Non c'è nessuna costrizione. Chi ti costringeva? Chi ti obbligava ad andare col prete? È più difficile andare col prete. Dunque c'è il fascino. Il fascino del sesso. Beh, faccia della divisa. Dai. In macchina la mano qua, la mano di là, la mano su, la mano giù, ma diciamo che in pubblico no, è sempre stato molto discreto, corretto. Ah, le Marchi, Marchi Nobile all'assalto dell'isola che non c'è stata. Ma non ci credo. Oh, abbiamo fatto finire l'isola, cazzo! Ma non ci credo. Gina sale! Gina sale! Gratta sale! Ma non ci credo! Abbiamo fatto finire l'isola! Siamo le numero uno! Siamo le numero uno! Voi non siete nessuno! Ma no, ma no! Adesso tutti i giornali! Sì. Tutti i giornali! Vanna Marchi e Stefania hanno bloccato l'isola! Adesso questo mi pare un'enfasi eccessiva che si dà a queste due ladre, ladre, perché restano per sempre truffatrici, ragazzi, per sempre truffatrici. Ditemi quello che volete. Dite quello che volete, ma quelle due adorabili megere, quelle due signore disgraziate che dovrebbero stare solo zitte e vergognarsi per quello che hanno fatto, che adesso esultano perché secondo loro l'isola sta andando male. Perché no, sta andando loro... male, non è ieri c'era la tempesta. Sì, cioè, vabbè, c'era la tempesta, che colpa loro, sta andando male, c'era la tempesta e quindi non potevano collegarsi per via della tempesta dell'Honduras. La tempesta dell'Honduras vi è costata, grazie a noi, 40.000 euro, d'accordo? E tu dici, per non far tornare la tempesta, voi si vogliono far dare i soldi. Sì, se volete andare in onda la settimana prossima dovete darmi 100.000 euro. Ma dici, guarda, quello dipende dalle condizioni atmosferiche, non da... Dai, due megere, due, adesso due portasfighe quelle lì. Sono due portasfighe. No, al contrario. Sono caso. Due classiche portasfighe. Fermo. Cruciani, io faccio il pendolare in treno e del traffico non me ne frega un cazzo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Ci vuole solo due persone, Trump e Putin, ragazzi, e sistema tutto. Trump e Putin che schiacci i bottoni e sistema tutto. Trump e Putin. Ragazzi, annullato a Roma il concerto del signor Bello Figo. Ma è un dramma assoluto, un dramma assoluto. Ragazzi, però scusa, non ho capito perché uno non può fare concerto adesso. Questi qua non se la dovrebbero fare sotto, questi organizzatori. Dovrebbero, se l'hanno invitato, non è che per quattro coglioni che minacciano di fare chissà che e poi non succede mai niente, annullano i concerti. Lo facessero lavorare se hai il pubblico. Se non hai il pubblico non lavori, se hai il pubblico lavori. Cioè adesso... gli organizzatori hanno paura di quattro mail o di quattro cose su internet mandate da tre deficienti. Dai, su. Senti, sai cosa mi ha entusiasmato? Un filmato che è stato anche pubblicizzato dalla Beretta, caro Parenzo. So che lo trovi orribile. Lo trovi orribile. Detestabile, ho visto. Sì, i signori della Beretta, uno dei più grandi produttori di armi nel mondo, la Beretta italiana, Beretta, ha pubblicizzato un video americano, cioè ha divulgato un video americano in cui c'è una bambina molto piccola, adesso non so dire, avrà 10 anni probabilmente, sì, 10 anni, un po' grassottella, americana, dentro una macchina che riceve un regalo. È un regalo ovviamente in cui c'è il marchio della Beretta sopra, cioè che l'hanno fatto per quello. Certo. Sai cosa c'è dentro questo contenitore? Un fucile. E la bambina, io non ci potevo credere, un po' forte. Però va bene essere contenti anche per un regalo così da adulti, un fucile in mano a una bambina di 10 anni. Senti con quale entusiasmo la bambina accoglie questo regalo, un fucile della Beretta. Brutto, comunque una bruttissima iniziativa. Di che? Della Beretta? Promozionale. Sì, sì, no, adesso non... Sì, certo, bisogna parlare della... la Beretta è una vergogna il fatto che diffonda online... No, ma dico, posso dillo, dire molto di più, stiamo parlando di un'azienda. È uno dei più grandi azionisti di Confindustria, ma non c'è problema. Ma non uguale. C'è un di dubbio. Questa è la radio di Confindustria? Sì, ma fino a prova contraria. Sì, credo dire, che sia uno dei principali contribuenti, credo. È la radio di Confindustria questa qua? Sì, credo, non lo so, credo. Anche se questa è la radio di Confindustria, posso io, David Parenzo, dire che sul sito di questa grandissima azienda italiana, eccellenza straordinaria, grazie. Hanno fatto una porcata. Aperta parentesi, che produce armi. E va bene, non sono contro le aziende che producono armi. Hanno fatto una porcata, dici. hanno fatto una porcata mega galattica. Lo posso ancora dire o no? Beh, sì, chiudiamo qui sì, la trasmissione. No, perché, perché devi chiudere? Io chiedo che la Beretta chieda la chiusura di questa trasmissione. No. Perché dovrebbero chiuderla. Se fossero coerenti, dovrebbero dire quei due coglioni, in particolare Cruciani. No, chiusa, ma no, vabbè, sì, in particolare. Anche Parenzo, va chiusa. Però la Beretta, secondo me, ha fatto una cosa di cattivo gusto. Una porcata, posso dirlo ancora? Hai detto una porcata. No, una porcata assoluta. Una porcata, hai detto, dice la porcata. Ma assoluta, vabbè, amico mio, zozzeria. Assoluta. No, diciamo, vuol dire una zozzeria? No, una porcata, una, possiamo anche aggiungere. Puoi anche dire una porcata zozzeria. Puoi dire che sono dei figli di puttana. Vuol dire che sono dei figli. Ah, questo no, ma perché dovrei dire no, questo? No, quello è vero. Siamo, cosa siamo? Okay, quinta colonna, dove siamo? Vabbè, allora lei ha detto che sono figli di puttana. No, ho criticato un pezzo di merda. Hai detto che è un pezzo di merda. Ma non l'ho mai detto. Hai detto che è un pezzo di merda. Sciocca la zanzara. Parenzo dà del pezzo. Ma non è vero. Ho detto, ho criticato una cosa che un'azienda una ha fatto. Singola cosa, ancora, una singola cosa. Sciocca la zanzara. Parenzo spara su Beretta. Capisci? Fanno anche il calamburlo. Ora fanno anche il calamburlo. Ma vaffanculo, dai. Ma vaffanculo. L'entusiasmo della bambina. Senti dai, l'entusiasmo della bambina. Ma quale bambina? È una cosa, è una scioccante. È stupendo. Oh my goodness. This is crazy. I'm gonna open it up. Open it. Open. Can't breathe. E apri. Quanto ci vuole aprire sta scatola? Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Vabbè. A me mi puzza ancora di finto sta roba, eh. Però se l'hanno messa sul coso della Beretta sarà vero, non è che sono provveduti, eh. Vabbè. Parenzo, due punti. Beretta un porco. No, vabbè, no, non l'ha detto. Non è vero, ma questo non l'ho mai detto adesso. No, no, è vero, questo non l'hai detto. Sciocca Beretta un porco. Mai detto, non l'hai detto. Allora, ragazzi, c'è un sondaggio, vabbè, che è stato pubblicato sempre sul quotidiano Libero. Ma sì, ottimo, prendendo Libero. Ispirazione, prendendo sì, ispirazione sì, dalla, sì, sì, dalla zanzara. Che sono, questo. Scusami, sono le tre opzioni che mi lasciano un po' perplesso. Io, però, prego, ne ho anche una quarta. Ne ho sì, anche una quarta. Allora, benissimo, benissimo. Voi come lo fate il bidet? Sì, ecco. Con le spalle al muro. Sì, sì. Di fronte al muro, con l'avviso di fronte al muro. Terzo opzione, come Parenzo, che non si sa bene come lo faccia, sì, no, o se lo fa, penso di sì che se lo faccia. Io aggiungerei però la quarta opzione, che è quella, ci sono persone che non lo fanno, cioè non lo fate, questa è l'altra opzione, non lo fate. Sai che io qualche volta mi dimentico di farlo? Questo non abbiamo dubbi, si sente anche. Cioè no, lo dicono in giro, si sente, non si, si sente molto. È si che sente. Qualche volta mi dimentico di passare dal water fino al bidet, vado direttamente con la carta igienica o con gli asciugamani, oh, e non passo, e beh, perché mamma qua è problema. Mia, mamma, perché vai con la carta igienica per forza di fare il bidet, chi che ha detto? Porcheria. Ma scusa, ragazzi, ci sono dei posti dove il bidet non c'è, quando vai nei bagni pubblici spesso il bidet non c'è, come fai? Cioè, devi fare solo con la carta e basta, non è così strano. Cioè, per cui non è bizzarro non farsi il bidet. Qualche volta uno non si fa il bidet. Non è che per forza sei uno zozzo se non ti fa il bidet. Dai, su. Beh, sì, io vedo molto negativo. Sì, cosa io, vedo male, la situazione la vedo male. Ah, beh, perché Parenzo ha detto Beretta è un porco, sì, è vero. No, Beretta, detto un questo. Maiale. Come ma non è vero, questo non l'ho detto. Cosa? Prendete le registrazioni. Prendetevi le registrazioni. Allora, dove andiamo? Andiamo a Pierluigi Milano, vai, Pierluigi, vai. Apriamo, apriamo, apriamo le danze. Apriamo le gabbie, va? Vai. Ciao, Giuseppe. Dimmi, Pierluigi, vai. Ecco. Sì, ciao, senti, volevo chiamare perché sono molto favorevole alla politica di Trump. Trampone, se sei favorevole, ci hai chiamato per farci sapere che sei favorevole, vabbè. Mi cambia la giornata questa telefonata. Su un articolo che ho visto di una bambina islamica di 5 anni che è stata stuprata dal padre, imam. Sì, adesso, via di 5 anni, scusa? Stuprata dal padre, imam. Dove l'ha letto questo? Su Libero Quotidiano? Dove l'ha vista questa notizia? Non lo so. Dove l'ha il vista padre, un'islamica no, stuprata dalla via di 5 anni. Vabbè, d'accordo, adesso sarà successo. Una volta. Sì, ma non è una specialità. Dire. Dove l'ha letta sta volevo roba? Sapere, i signori buonisti, tutti quelli che stanno facendo casino per Trump. Amico mio, sì, ma adesso non è che... tu dici una specialità islamica questa qua. Sì, sì, sì. Ma non è sì, sì. Non dove c'è la... adesso. Io lo sai che non, ha, non sono, come dire, un fanatico dell'Islam, tutt'altro. Però non credo sia una specialità islamica. No, ma loro sposano le bambine dagli 8 anni in su. Ma dove? Bisogna distinguere anche la comunque. Ma cosa di... Ma cos'è che vale tutto ormai? Chiama chi dice qualunque cosa. E allora tutto. Pierluigi, dunque? Cioè, gli oppositori di Trump, tutti i buonisti, quelli come Parenzo, che inneggiano. Ma perché gli islamici sono stupratori, secondo te? No, non sono stupratori, è che loro hanno questa politica di sposare di le questa bambine. Politica. Cioè, allora hanno questa politica, quindi questa politica di stupratori. Hai letto che c'è uno che ha stuprato dove la bambina di 5? Dove l'ha letto però questo? Dove l'ha letta questa notizia? Cazzo, di questo stupro? Comunque, volevo dire sì, che... Ma comunque a prescindere che se non l'ha letta va bene, vero? Tutti quelli che urlano... Sì. diritti umani, sì, populismo, razzismo, dove sono? Sì. Quando vanno, dove sono? Quando sono? Quando difendere questi bambini qua? Quali bambini? Dove bisogna difendere lei dalle sciocchezze che dice? Questo è il punto vero, difendere lei dalle sue sciocchezze. No, bisogna difendere, sì, bisogna difendere i bambini da quelli come Parenzo, da persone malate, sì, come bisogna difendere i bambini da Parenzo? Di che cosa adesso? Difendere i bambini da Parenzo? Di cosa sarei malato adesso? Comunque ragazzi, scandalo a Tolmezzo, corsi di sci ai profughi, è bufera, caro Parenzo. È bufera dove? I piccoli profughi, minori, sì, profughi fanno corsi di sci pagati ottimo dai contribuenti. Parenzo, due punti, bene i corsi di sci. No, ottimo. Pezzo di merda, infame, lurido. Esatto, schifoso, maledetto, se tua figlia venisse. Ma comunque è vero, fanno dei corsi di sci gratis per i profughi. Vabbè, per, gratis, per almeno, profughi minori. Almeno fa qualcosa. No? Fermi tutti. Sezione distaccata della Zanzara di Cambridge. Manifestazione in piazza, il popolo è chiaro. Cruciani è un coglione. Certificato dall'Università di Cambridge. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. La Zanzara. Colonna, caro Parenzo, ieri c'era Nur Alam, l'islamico che è stato anche ospite qui. Nur Alam, ottimo, quello Nur del Bangladesh, quello del Bangladesh, una persona molto contro bene, la Santanché. Ecco, contro la Santanché, nuova anche questa cosa, no? Italia, ma non prendiamo c'è pensione. Ma voi lavorate, perché noi non lavoriamo? Onorevole, noi cosa facciamo? Lei deve capire, onorevole, per avere due voti, non dite cassate con 4 milioni di lavoratori, 8 milioni mani, ma che lavorano, c'entra? Sudano per crescere l'Italia, 11% PIL che danno alla INPS e coperto dalla, come si chiama, pensione per italiani, dai! No, questo era l'altro, no? Dunque te lo spiego, funziona così, te lo spiego in 40 secondi. L'attacco incrociato funziona così, sì, sì. C'è in mezzo il negro solito, che in genere deve avere comunque una palandrana, un vestito, ci si deve vedere che è negro, non basta il colore, ci vuole anche una kefia, un vestito tradizionale, no, cioccolata, cioccolata, non possibilmente nero, cioccolata, benissimo, cioccolata, benissimo. Poi c'è in genere Santanché, Barra Gasparri, Barra Russo, Barra Meloni, la Lega. Barra un Salvini, Barra Marcato, uno di questi qui, sì. Poi c'è la piazza. Sì. Allora, in un primo momento il povero malcapitato Negretto viene massacrato dal Salvini di turno. Venite qui, volate via il lavoro, wifi, italiani nelle baracche, i negri in casa. Quello tenta di rispondere, dice, ma non volere fare però solo il lavoro. Va bene, dice per Pietro, la piazza, maledetti, avete stuprato i bambini, ci avete lasciato per strada. Il negro in mezzo a questi due poli. Questa è la situazione. Senti, Nur Alam contro la piazza adesso. Senti, ottimo, sentilo Nur contro la piazza. Benissimo. Non ha capito voi. Posso proprio parlare questo anch'io, che il punto tu di tutto ascolta, parte non del hai mondo capito. È si sta libertà. Parlando oltre la moschea voi di degrado, non avete capito. Voi degrado avete iniziando. E che attaccare una religione falsamente, sì, falsamente. Fatelo finire, fatelo. Signora, un attimo, ho capito, lei pura politica che voi fate. Nur Allam, gli immigrati portano pill. E gli altri, ma un'altra c'è piazza, a Pedemonzo, via, cazzo, ecco lì, senti, all'attacco, via, giù a testa bassa. Tonezza, hanno distrutto l'economia di un paese, viviamo a 1000 metri, abbiamo tribolato per guadagnarci il posto di villeggiatura, ne abbiamo 94, 94 in centro dove abito io. Tutti i pensioni italiani. Siamo neanche 30 persone, dica che tasa quello lì. Questo è anche un'altra parte di informazione. Lavoratori immigrati producono. Ci fermiamo un attimo, ricalmiamo un po' le acque e torniamo tra poco. C'è quella che dice taci porco, sì, taci porco. Siamo stufi, no? Quel porco del can, come si dice in Veneto. Taci porco. Ma io veramente sono un professore universitario, però. Taci che te, no, porti quello... via il lavoro, porco di un can. Mamma mia, ragazzi. Va bene, calmiamoci un attimo. Sant'anché. E allora avete dato i soldi maiali? Invece come calmiamoci un attimo? Guarda la porta, parola quell'altro. Senti, senti quest'altro, sempre Sant'anché. Ah, si può. Chiudi, dai, chiudi. Ma, dai, ma non se ne può più. Ecco perché bisogna avete chiuderli. Bisogna chiudere. Vabbè, questi luoghi di culto, le moschee, le bisogna fermo, chiudere, dai. Fare che un cessimento. Che ci calmiamo un attimo, perché qui stasera è difficile calmarsi. Certo che colpa politica che voi avete appoggiato, eccolo, per distruggere, eccolo, tre paesi e i lavoratori. E poi dopo ci ammazzano, lavoratori iracheni, adesso muoiono per fame. Lavoratori della Libia muoiono per fame. L'avete portato per in problema televisione, vostro politica, per l'odio, solo controllo petrolio, solo per soldi. Avete continuiamo distrutto così due o tre paesi. Ecco solo l'odio per soldi. Avete distrutto, ma, i paesi solo quale per odio? Soldi! Ma quello poveretto stava difendendosi, quale odio? Ma di cosa parliamo? Vabbè, ragazzi, andiamo a Pisa, dai, vai, Claudio, Claudio, vai. Oh, Giuseppe. Dimmi, dimmi, Claudio. Dimmi. Senti, voglio dirti una cosa, c'è un dubbio orribile io, Qual è? Qual è? Senti, ma dal momento che i Rom non pagano, sì, la corrente elettrica, perché gliela passa al comune, sì, e questi non pagano neanche la televisione, non pagano il canone. Beh, questo mi pare, pretendere che i Rom, cioè, come molti italiani, il canone Rai, come che molti è stato italiani, evaso da tanti italiani pure, ecco, come suggerisce, sì, Parenzo. Ma il canone Rai ti arriva, ti, vabbè, arriva, ma non sarà mica un problema i Rom, mi pare non un problema secondario della luce. Ma e allora? No, volevo sapere, non pagano neanche quello allora. Ma non credo, ma vai a rivolgerti a quelli che fanno la riscossione del canone Rai. Io che cazzo ne so se i Rom non pagano, vabbè, il canone Rai. Insomma, una era dubito che paghino il canone Rai, cioè, ecco, va bene. Tra la comunità Rom ci sarà il 100% di evasione del canone Rai. No, perché ogni baracca o quello che è, la televisione ce l'hanno. Ma quello sì, quello di sicuro. E poi ti volevo dire una cosa, ma si può sapere, tramite l'Avis, se i Rom lo donano il sangue? Ma perché, scusa, che c'entra? No, più che altro perché mi piacerebbe sapere se i leghisti lo prenderebbero o preferirebbero morire. Ma che c'entra il sangue dei Rom? Mica è targa, mica c'è scritto Rom sopra quando uno dona il sangue. Cioè, no, ma dico, no, perché sono al di fuori di ogni contesto queste persone. Ma no, ma al di là di questo, cioè, non è che c'è scritto quando uno va a donare il sangue, se anche un Rom donasse il sangue, non è che c'è scritto sangue donato da Rom, mica stiamo. No, ma mi piacerebbe mica che Mengele, fosse scritto, cioè, sulla sacca, sai? E perché? E poi dalla un leghista e dirgli questo è di un Rom per vedere se lo piglia o meno. Salvatore, capito? Da Napoli, da una cazzata, dai. Salvatore da Napoli, dai. Lo donano il sangue. Salvatore, solo che gli casca per terra. Pronto? In che senso casca per terra, scusa? Donano il sangue, però gli casca per terra perché non riescono a raccoglierlo. Lo vanno a donare. Lo vanno a donare, ma casca per terra. Non ho capito, non ho capito la battuta. Non ho capito nemmeno battuta. Io. Qual è non la battuta? Non riescono a raccogliere. Allora, volevo dire questo. E i musulmani, va bene, però dove loro mettono i piedi, sì, la terra diventa infelice. Invece a casa loro, sì, siccome la calpestano quella terra pure a casa loro, sì, pure quella terra è infelice. Non riesco a vedere il paese musulmano felice. Ah, dove, secondo te, dove c'è Islam c'è infelicità? Sì, io ho paura che questi portano pure sfortuna. Vabbè, questo adesso tu sei napoletano, magari sei un po' più... No, scusa, questi dove vanno, arrivano e c'è l'infelicità, ma sia loro, dei figli, delle mogli, dei parenti, cioè di tu dici che i popoli, gli islamici sono infelici come proprio come popolo, sì, cioè come sì, popolo, come, sì, come predisposizione. No, basta adesso basta questo che calpestano, loro calpestano la terra, sì, e quella terra diventa infelice, questo è il problema. Va bene, una puttanata mi pare, Salvatore, però, totale, per carità. Ciao, poi ciao, volevo ciao dire un'altra, un'altra cosa, cosa pure la terza cosa, quale sarebbe? Dimmi. Cruciani e Parenzo, siete due paraculi. In che senso, scusa? Avete, quello capito, può essere? Come cazzo, sì, sì, come cazzo si fa a campare, sì, senza fare un cazzo? No, veramente io lavoro, però per carità, tanto senza qualcosa fare un cazzo, si produce, no, ogni tanto. Lavoro meno, lavoro meno dell'operaio dell'Ital Sider, se ancora esiste, no, anzi non è... ma, però siete due paraculi, perché avete capito esattamente come si fa e mi piacete. Va, va bene, bene, ciao, ciao, ciao. Dove andiamo? Ciao. Dario da Bari, vai. Dario. Salve, no, dimmi. Io volevo... sì, salve. Volevo parlare della questione delle abluzioni quotidiane. Che avete, cioè del bidet, dici, del bidet. Sì, esattamente. Il bidet, esattamente. Bene, ottimo, vai, dimmi. Il bidet. No, niente, io volevo dire che, diciamo, la mia posizione preferita è con il volto verso il muro, prima sì cosa. Molti dicono questo, sì. Io francamente, ti ho detto, per un passaggio molto chiaro, cioè non è che mi... cioè, siccome quando uno caga, c'ha la, di solito, questo mi pare abbastanza chiaro, le spalle al muro, su questo non ci sono dubbi, sì, no? Sì, nel sì, caso sì di un cesso tradizionale. È evidente che poi se uno passa immediatamente al bidet accanto, non è che fai, no, una conversione a U. Cioè non è che ti, non è necessariamente, che ti sposti di 360 gradi. Ma io faccio così, mi sposto direttamente nella, no, nel bidet, che è di solito un po' più basso del cesso, sì, senza, di solito all'altro, sono senza ancora girarmi, le borse, senza le borse girarmi orientali sono ancora aperte, non vorrei che ci fossero dei problemi sui mercati finanziari asiatici. No, quelle americane perché... sono aperte. Ah, allora, quelle americane, è vero, perché dall'altra no parte. Manuel, se... allora, non ho capito, Dario, non ho capito bene qual è il punto. Signore. Se lei si mette con le spalle, con il volto, sì, rivolto verso il muro, sì, riesce ad usufruire meglio del getto forte dell'acqua fredda. Sì, è vero, è una tecnica, è ma non amando, io molto l'acqua, per esempio, il getto... No, è una cosa che non va bene, cioè, se non ama l'acqua, come cazzo fa a farsi il bidet? Mi dispiace. Ma il bidet che c'è? Vai sotto con la mano e cominci a ravanare sotto con la mano, qual è il problema? Non ho capito. Cominci... appunto, appunto. Un ravanamento con la mano sotto, che sia da dietro o davanti, è uguale. Cioè, No. Perché, lì... no? Perché lì non fa riferimento al fatto che l'acqua fredda, al piacere dell'acqua fredda sul davanti, prima. Ma ho capito, ma io al davanti mica dietro me lo devo pulire, vado al bagno, di solito non mi pulisco la parte davanti, scusa, non è che mi pulisco la l'episello, scusa. Dietro, lì, una cosa assurda. Ho capito, io mi pulisco di solito solamente dietro, che ti devo dire? Sì, comunque c'è un'altra posizione. Ma tu adesso stai parlando con l'auricolare oppure stai parlando però, con però attenzione, non darei questi annunci perché effettivamente sto vedendo l'andamento degli indici mondiali, il Dow Jones e il Nasdaq stanno andando tutti giù dopo questa... Dario, allora cioè, non ho capito. Il Dow Jones a meno 0,73, forse allora... per questa notizia del bidet probabilmente. Eh? E niente, la posizione davanti è la più comoda. Ma dove parlavi? L'auricolare dove comunque la voce? Dite delle schifezze inenarrabili. No, telefonino cinese di merda. Porcherie, mi scrivi. Schifezze. Ma che schifezze? Schifezze. Cose normali, come lo fai tu il bidet? Normali, stiamo schifezze, raccontando schifezze, la realtà, schifezze, la verità. Basta. Porcherie, porcherie, porcherie, porcherie, porcherie. Io quando sento Parenzo che manda a fare in culo qualcuno o lo zittisce in silenzio, corto, non mollare mai Parenzo. Mai. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Allora ragazzi, mentre Michael Moore, il regista o non so attento, che altro, attento, scusami, dice, perché arriva... aspetta, dice che sì, negli Stati Uniti è in corso un colpo di Stato, è in corso un colpo di Stato, detto questo? Mentre il signor Michael Moore Michael dice Moore, che negli Stati Uniti è in corso un colpo di Stato. Vabbè, follia. Ragazzi, una follia totale. Follia. Mentre Michael Moore dice questa cosa, e mentre qui alla Zanzara si dibatte sulla posizione più comoda da prendere mentre si fa il bidet, se di sì fronte al muro, con le spalle al muro, oppure sì addirittura non farlo in alcuni casi... Non fare in alcuni casi. Parenzo, hai da aggiungere qualcosa? No, soltanto un messaggio di un nostro ascoltatore molto sì famoso che mi manda questo che vorrei farti sentire, sì, per cortesia. Sì, vai. Aspetta, no, perché no, ti sei preparato tre ore e poi alla fine non ti hanno fatto scattare, no, il messaggio. No, è incazzato nero questo ascoltatore, perché dice che ma chi se ne frega, ma non me ne frega niente di questo. Aspetta. No, insomma, no, Radio Maria prende benissimo, voi no. Aspetta, eccolo qua, senti. Comunque guarda, da Ovada a Ventimiglia non prende un cazzo Radio 24, saranno le gallerie, ma anche no, insomma, no, Radio Maria prende benissimo, voi no. Giovanni bene in casa. No, ma ha ragione, arrabbiato. è una merda, sì, ma... Comunque guarda, da Ovada a Ventimiglia non prende un cazzo Radio 24, saranno le gallerie, ma anche no, insomma, no, Radio Maria prende benissimo, voi no. Bravo, bravo Giovannino, un applauso a Giovannino, è una vergogna questa cosa qua. Investimenti, soldi, altrimenti non ci sente nessuno, vergogna... A chi mi rivolgo? A noi stessi, dici, no? Sì, certo, ottimo. Allora, mentre succede per sciopero non andiamo in onda, è uno scandalo. Mentre questo, succedono queste cose, Palermo capitale della cultura 2018, sì. C'è un signore grillino che ci chiama ogni tanto. Ah. E ci rompe i coglioni, un signore grillino di Palermo. Senti che messaggi che manda, senti. Sì. Cruciani, noi abbiamo la ragica indagata e tu quanti amici politici arrissati hai, Cruciani? Condannati in via definitiva, Cruciani e Parenzo. Ve la metteremo nel culo, la maggioranza al 40% ce la prendiamo con gli occhi chiusi. Noi pigliamo 60% di voti, ci saranno 5 anni appena si stanca Gentiloni e dopo inutili Mattarella che gli pala in metà non ne ave niente, su by side. Ci saranno 5 anni di governo a 5 stelle, 5 anni e poi vi mandiamo a roba a tutti, i giornalisti corrotti di merda bastardi. Oramai va il rischio di parlare di bidè, di come si caga, se cachi in piedi, se cachi seduto, se cachi di lato, se cachi con la gamba alzata, se pisciagnone, è una vergogna, è una vergogna. Vi parlavate di politica quando vi conveniva a voi, quando c'era quel minchione di Renzi a Palazzo Chigi, ora di questo avatar che c'è non ne parlate più perché non ne vale la pena. E parlate di bidè, di cessi, di tutte i seminchia che è tavuci, da due cantante romano che è tavuci come un malato. Siete dei disperati, siete dei disperati. Fra qualche giorno sarete costretti a parlare di Grillo che è là, presidente del consiglio, no Grillo, qualcuno per lui. Del Movimento 5 Stelle prima o poi ne parlerete per forza perché andremo al governo. Con le signore che ti dicono la verità che sei un disperato, tutto che fai così, tutto che alzi la voce, perché un chi sa voce con me, Cruciani, che te non una tizzata a mucca e ti faccio fare tutto e niente, che la signora hai sa voce, Brunello, sei un piscialetto, sì, Cruciani, non fai spaventare a nessuno, ti tiriamo sul cazzo, ti tiriamo. Ecco, modello del militante Five Stars di Palermo, aggressività mille, ma le parolacce non mi spaventano, per carità, ti spacchiamo la faccia, sì, giornalisti tutti corrotti, sì, Mattarella sì, sì. Non è nemmeno palermitano, i cornuti al governo, eccetera. Io proverei a fare una telefonatina a questo signore, perché questo signore ha un numero di telefono che consegna ogni volta nei suoi lunghissimi messaggi WhatsApp in cui insulta tutti, Parenzo, Cruciani, il governo, Renzi, eccetera, eccetera. Salva solo i Five Stars. Pronto? Vai, sfogati. Forza. Pronto? Sfogati, vai. Eccoci qua, dai. Grillino. Vai, Grillino, sfogati, vai. Grillino. Ma io stavo dormendo, ma capite? Ah, stai dormendo alle 6 di sera. Alle 6 di sera come dorme. Mai? Grande lavoratore. Sto riposando, ma così Cruciani se ne scassa la minchia mentre noi, ma sì? Cruciani. E anche Parenzo, amico mio, certo. Parenzo, che piacere sentirvi. Ben svegliato, amico mio, ben svegliato, Iamma a lavorare. Una cacata la minchia, quando ho fatto il riposino pomeridiano, cacchiano data. Pomeridiano? Scasso tutto. Ma che scassi tutto dove? Scassi tutto dove? Culo, Cruciani, ma dove? Sai che ti rompe il culo, Cruciani? Io sono Grillino e voi Grillini, e noi Grillini a voi ve la mettiamo in culo. Sì, ma devi stare tranquillo. Mi hai fatto svegliare, bella aggressivo, mi hai fatto svegliare. Io sono ero in mio. Ah, ma tu sei anche iscritto ai 5 Stelle, cioè sei Grillino tutto di un pezzo. Sì, io faccio votazione online. io sono grillino tuttato un pezzo. Bravo, interessante. E minacci la gente così, ti vengo lì e ti rompo un culo. E incazzo tutto, ma è una cosa così gioviale, lo sai che gioviale, c'è. Non ti sfiorerei neanche con una rosa. Ah, nemmeno con una rosa. Soprattutto a Parenzo. Soprattutto a Parenzo. Schiavi, com'è che c'hai detto? Schiavi, siete, no? Ma è normale, con chi siamo si fa il riposino pomeridiano e voi telefonate così a tompolata, come si dice a Palermo. A tompolata. Ma arriva questa chiamata. Mamma mia, ragazzo, come sei messo male. Comunque hai la possibilità. Tu sei messo meglio di me con quella faccia bella che c'hai. Comunque hai la possibilità di sfogarti. Io posso qui parlare perché conosco il tuo viso. Sì. E so quello che dica. Hai una faccia di minchia proprio, lo so. Va bene, d'accordo, una faccia di minchia. Tu la mia faccia non la conosci, quindi non puoi parlare. Io te lo posso dire per scelta che è proprio una faccia di minchia. La grande analisi politica del violento a 5 stelle da Palermo. Com'è che ti chiami di nome? Non ti interessa un cazzo. Mi interessa invece. No, non te lo dico come mi chiama. A me mi interessa che ti chiami Giuseppe Cuciano e che ha la faccia di cazzo. Sì, va bene, d'accordo. L'amico tuo Parenzo ha la faccia più di cazzo della tua. Bene, evviva, mi saluti a casa la sua bella famiglia, Che lavoro fai, scusa? Per dormire. Io non lavoro, sono disoccupato. Grazie ai politici amici tuoi sono disoccupato. Beh, io credo che sia più datti colpa sua. Datti da fare, amico mio, datti da fare. Trovati un lavoro, datti da fare. Non si dorme alle 6 di pomeriggio. Uno che è disoccupato alle 6 di pomeriggio non dorme. Tu però la mi vuoi provocare, eh? No, mi sembra la realtà questa, però. No, la realtà, stai dormendo, sono disoccupato. Può essere pure che io ho finito di lavorare, che ne so, alle 4. Ma tu l'hai detto. Hai detto tu che non lavori. Sempre per i politici, amici. Ma c'entrano i politici? C'entrano i politici. In nero. Ma che c'entrano i politici? Ho finito di lavorare alle 4, un lavoro duro, perché stamattina mi sono alzato alle 6. Sì, e non sono cazzi tuoi. Sì, certo. E poi stavo facendo il riposino, perché alle 4 ho finito, mi sono mangiato una cosa e mi sono riposato. A differenza tua e dell'amico tuo, che in vita vostra non avete mai lavorato, avete solo leccato il culo. Avete solo leccato il culo. Anchi, avete anchi i galli nella lingua perché leccate il culo. Anchi, leccate il culo. Tu e l'amico tuo, leccate il culo. Questo sapete fare. Ah, è bello questo linguaggio dei 5 Stelle. È interessante. Io in vita mia non ho mai leccato. Sì, interessante, sì, però. È bello. Tu lo sai benissimo. Questo linguaggio. Ma io che ne so, io mica la conosco. C'era quello lì al potere. Sì. Non parlavate mai contro quel massone di merda di Renzi. Sì. Ma massone. Massone non risulta che sia massone. Per rompere i coglioni solo ai grillini. Ma e i grillini ve la metteranno nel culo. Ale. Era tanto tempo che volevo parlare col grillino a 5 stelle. Col palermitano grillino. Vabbè, dai. Manuel, provincia di Lucca, vai. Buonasera. Dimmi. Allora, io proporrei di accantonare per un attimo il tema bidet e affrontare un altro tema, qual sempre è inerente alla toilette, cioè l'inutilità della carta igienica OGD. Sì, interessante. Non serve. Cioè, non serve la carta igienica, tu non dici? Serve assolutamente. Nel bagno, non serve. Pensateci bene. Ogni tanto serve la carta igienica. Storicamente, la carta igienica cosa serve? Per le feci. Sì. Ok. Vabbè, certo, però uno se vuole. Però c'è il bidet, non siamo in Francia, c'è il bidet. Sì, io vado sul bidet. Sì, fai il bidet, ecco, puoi fare a meno della carta igienica, cosa che spesso io faccio. E poi serve per lo sperma, perché uno si masturbava. Ma è demodé, aspetta, è demodé, è un tema andato. In bagno ci andavamo da ragazzini, noi, la nostra generazione, allora, col giornalino. Ecco, adesso lo metti accanto al computer, lo metti sulla televisione. Cosa? Rotolo di carta igienica, voglio dire, sta io non lo metto parti accanto in televisione, non lo metto mai accanto alla televisione. Sembra un po' dalla voce, sembra Nicoletti. Però non lo è, perché il linguaggio è un po' diverso di questo signore. Beh, no, però non attenzione, Nicoletti, la carta igienica è inutile, salviamo l'Amazzonia. Sì. Mettiamo di pulizia. Senti, dove sembra Nicoletti. Ma non ho capito, ma perché bisogna, perché bisogna Nicoletti curerei questo per danni? Perché vuoi togliere la carta igienica? Non ho capito. Non sai, allora salviamo l'Amazzonia. Salviamo l'Amazzonia, non puliamoci più il culo con la carta igienica. È intelligente questo ascoltatore. Non serve, io uso i fazzolettini anche dopo il sesso. Beh, ma sempre carta è i fazzolettini. Ma sempre carta è. Mi soffio il naso, pulisco quelle cose col fazzolettino, sono a posto, non ho bisogno della carta igienica. In casa mia la carta igienica non c'è. Sì, vabbè, d'accordo, ma tu fai una scelta, ma la gente che vuole servirsi della carta igienica, i farmaceutini hanno lo stesso. Io spesso salviamo la Amazzonia, cerchiamo anche di utilizzare la carta igienica, perché gli ambientalisti non sfilano, non manifestano in strada per una cosa del genere, è una cosa fattibile, ce la possiamo fare. No, è vero, ma infatti c'è tutto un movimento che dice che non bisogna più utilizzare la carta igienica, eccetera, eccetera. Va bene, d'accordo. Però se uno si porta i fazzoletti, io spesso mi dimentico di rinnovare la carta igienica, di comprare carta igienica, resto anche una settimana senza carta igienica. Mamma mia, ragazzi, ma che insegnamento, è la cosa normale, ma che inutile, schifo è. Non serve più, e allora ho dei di riserva, ho dei fazzolettini di carta. Mamma mia, ma di in cosa vivi? Ma in che degrado vivi? Ma perché degrado? Ma poi non prendetela con i Roma, ma in che degrado vivi, figlio mio? Ma perché non ti lavi, puzzi, non ti fai alle volte il bidet, non hai neanche la carta igienica. Ma qualche volta finisci con le lenzuola. Ma è un degrado morale, oltre che fisico. È un degrado, sei un degrado. Demetrio da Torino, vai, Demetrio. Hai bisogno di una figura femminile che ti ingentilisca, Demetrio, in quella casa. Demetrio, vai. Non quel povero cingalese pagato dai 4 euro lorde, dimmi, l'ora. Demetrio, dimmi. No. Ma io, guarda, vorrei fare una petizione per fare cantare Bello Figo negli stadi, tipo Vasco Rossi. No, io invece voglio negli stadi bisogna riempirli poi. Appunto, ma li riempie lui. No, invece che... io credo che siccome stanno cancellando tutti questi concerti di Bello Figo, io farei cantare Bello Figo qui alla Zanzara. Certo, grande appuntamento. Bello Figo ospite live alla Zanzara. Certo, io ti dico, sono andato a sentirlo. Vediamo se ha le palle di venire qui a cantare alla Zanzara. Un delirio è stato un delirio. In che senso? Dove sei andato? A Torino? A Torino, l'ho sentito a Torino. Ah, qualche settimana fa. Che ha fatto? No, guarda, no, pago affitto. Appena messo pasta col tonno, il delirio. Cos'è pasta col tonno? È una canzone. Pasta, sì, ma come fa? Ma come fa pasta col tonno? Pasta col tonno. Abbiamo una tematica, ragazzi. Non la conoscete? Ma come non la conosco? Io non la conosco, basta col tonno. Io conosco le canzoni di Andrei. Mangio pasta, pasta. Tutti sanno che mangio pasta, pasta con tonno. Cioè il delirio, capito? C'è una cosa di una demenziale. All'ombra fantastica dell'ultimo sole sarà assopito un pescatore. Ci abbiamo noi. Tutti sanno che mangio pasta, pasta. Tutti sanno che mangio pasta con tonno. Con tonno. Con tonno. Cioè, capito? Con tonno. Genio. Tutti sanno che. Allora, a proposito di pasta, però, caro Parenzo, cerchiamo di affrontare qualche discorso ogni tanto più serio. Come sai, c'è questo signore Feniello, che è il padre di un ragazzo morto a Rigopiano, che si batte perché vuole denunciare tutti, dice che è colpa dello Stato, l'uccisione del figlio, eccetera, sì, eccetera. Vediamo se ci risponde, va. Per la mia figa, preparo un po' di pasta. Pronto? Sì, pronto? Sì. Signor Feniello, buonasera, qui Radio 24, la disturbiamo? Prego, buonasera. Buonasera, come stai innanzitutto? Come vuole che possa stare. Lo so. Le voglio chiedere, l'altro giorno, quando l'ho vista in televisione, esattamente contro chi ce l'aveva? Questa cosa non era chiara, cioè contro il sindaco di Farindola innanzitutto, no? Sindaco di Farindola, sì. Il prefetto, sì. Il questore, se ha delle responsabilità. Sì. Il presidente della regione e il presidente della provincia. Ma secondo lei tutti questi hanno delle responsabilità in questa vicenda, nella vicenda di Rigopiano? Per quello che mi riguarda sì, perché se c'era uno dei figli forse tutto questo non succedeva. Sicuramente l'avrebbero recuperato quegli elicotteri le persone prima che crollasse l'hotel. Qual è la persona più responsabile? Cioè, se lei avesse di fronte la signora della protezione civile che ha risposto al telefono nel pomeriggio, che cosa le direbbe a questa signora? Secondo me quella è una deficiente, secondo il mio punto di vista. Cosa andrebbe fatto secondo lei? Per me vanno tutti denunciati, poi sarà la magistratura a decidere chi ha le responsabilità. No, io capisco il suo dolore, sono Parenzo intanto, buonasera. Buonasera. Capisco la sua rabbia, la sua incazzatura, la capisco, lei, voglio dire, è una vittima di quella tragedia che c'è stata. Però non penso che c'entrano i politici e i potenti, cioè purtroppo è stata una tragedia. Hanno dato l'allarme e qualche imbecille non ha risposto all'allarme, questo è... Guardi, mio figlio all'1 era pronto per tornare a casa, io l'ho sentito verso l'1:15. Sì. Poi ha chiamato mia moglie verso le 3 qualcosa. Sì, ma è stata una tragedia. E allora dice che nessuno andava a liberare la strada. Però io le faccio un'altra domanda, la faccio anche ai politici. Sì. Se lo spazzaneve partiva quando è stato dato l'allarme, cioè quando il signore ha telefonato al suo datore di lavoro, sì, e partiva la turbina, sì, se partiva alle 5 e mezza, alle 6 che è stato dato l'allarme, prima delle 4 di mattina sopra non arrivava, per quanta neve c'era. Allora le persone che sono rimaste colpite, tipo mio figlio, è rimasto sotto le macerie dell'hotel, cioè quelle persone non si salvavano comunque. La sera che mio figlio è salito, il sindaco di Farindola mi ha dichiarato la mattina che quella panda bianca con una coppia a bordo, lui era avanti e l'ha fatta passare. Poi un poliziotto della provincia, sì, mi ha dichiarato che hanno accompagnato 10 persone su un hotel la sera. Ma cosa devono fare? Devono impedire che salissero? Per me sì, perché voi vi siete preoccupati per far salire queste persone su un hotel, ma non vi siete preoccupati poi di mantenere la strada libera. Cioè avete fatto solo il lavoro per farle salire le persone, cioè affinché pagassero l'hotel, per quello che mi riguarda. Ma come le considera queste persone? Lei nei primi giorni ha utilizzato delle parole molto forti. Cioè... E continuo a utilizzare quelle parole. Cioè dei pezzi di merda? Dei pezzi di merda, sì. Io non ho paura più di nessuno, ormai ho perso tutto. Io, mio figlio non me lo darà più nessuno. Ma io finché non avrò giustizia non mi fermerò. No, non mi fermerò. Il capo del governo Gentiloni ha detto che è stato fatto tutto in modo perfetto, è stato fatto un lavoro straordinario. Come giudica queste parole di Gentiloni? Mi fa ridere. Mi è venuto da ridere quando me l'hanno raccontato, perché c'è chi sta ascoltando le trasmissioni e mi chiama e mi dice quello che dichiarano i politici. Sì. Mi fanno ridere. Io ho parlato poco fa con l'assistente di Sgarbi, sì, che mi ha contattato. Stasera dice che Sgarbi sarà in una trasmissione. Sgarbi ha detto che si batterà fino alla fine per questa cosa, per me. Però scusi, secondo lei allora che cosa hanno fatto? Le hanno lasciate morire? Sono stati negligenti? Se ne sono fottuti? Sono stati negligenti, se ne sono fregati, quello è il problema. Ecco perché io dico, se c'era il figlio di Gentiloni, sì, lei pensa che l'avrebbero fatto morire quelle persone? O partiva l'elicottero, o il gatto delle neri, o le motoslitte? Cioè in qualche modo il figlio di Gentiloni l'avrebbero salvato? Ma sicuramente sì, ma non solo lui. Ma io non credo proprio. Cioè, lei dice addirittura che siccome erano persone comuni non c'è stato quell'impegno che ci sarebbe stato nel caso in cui ci fosse stato il figlio di un politico, di una persona importante. Certamente, se c'era il figlio del prefetto per me andavano a recuperarli col gatto delle nevi, perché mio figlio e tutti gli altri erano arrabbiati perché erano pronti con le valigie nella hall che volevano tornare a casa e non gliel'hanno permesso. Per me quello si chiama sequestro di persone e omicidio. E sicuramente io denuncerò tutti, non lascerò nessuno, poi sarà la magistratura a decidere chi ha la responsabilità. Senta, chi lo ha ucciso secondo lei suo figlio? Le autorità, che non sono intervenute a recuperare mio figlio. Cioè lo Stato ha ucciso suo figlio? Lo Stato e i politici dell'Abruzzo, i responsabili dell'Abruzzo. La turbina perché non è partita? Perché lo spazzaneve si è preoccupato di pulire la strada affinché i clienti salissero? Ma al di là di questo, lei ha detto che parla anche a nome degli altri. Perché gli altri parenti delle vittime non esprimono questa rabbia che lei tira fuori? Perché stanno zitti? Sicuramente perché forse non hanno avuto la notizia che mio figlio era vivo e poi fino al giorno dopo, la sera dopo, che io mi sono arrabbiato. Cioè, nessuno mi veniva a dire che mio figlio si erano sbagliati, perché io ho avuto una notizia, se voi sapete. Adesso pare che dichiarano che mio figlio non era nemmeno là. Cioè, quando la ragazza dice che stava a 2 metri da lui e illuminava questo braccio con l'orologio, con la torcia del telefonino, finché ha avuto batteria. Adesso pare che quelli che l'hanno recuperato dicono che non stava là. Senta, come immagina la sua vita nei prossimi anni lei? La mia vita è finita. Io ho detto ieri a un mio amico psicologo che io faccio l'amministratore di condominio e questo è il mio condomino, gli ho detto c'è la possibilità di resettare il cervello. Se c'è la possibilità di resettare il cervello io potrò ancora continuare a vivere. Io avevo dei programmi, mio figlio si doveva sposare l'anno prossimo. Sì. Poi il resto della mia vita diciamo che era tutto in discesa. Adesso la mia vita è finita, mia moglie è distrutta, mio figlio, l'altro mio figlio è distrutto. Ma quello certo, per forza. Cioè, ma... Io adesso ho solo rabbia, io non riesco manco più a piangere perché le lacrime non mi escono più. Io ho solo rabbia. Cioè lei mi dice dopo aver perso un figlio, io avevo costruito i miei figli non hanno mai fatto male a una mosca. Non so se lei ha saputo del funerale. Al funerale di mio figlio ci stavano migliaia di persone. Si sono movimentati. Cioè lei non si arrende all'eventualità che magari all'eventualità che possa uscire fuori che è stato solamente il fato. Assolutamente no. Le disgrazie capitano quando gli uomini le permettono. Queste sono cose che sono sempre le persone che lo permettono. Perché è facile stare seduti vicino a una scrivania e non pensare ai problemi. È facile. è facile. Senta, però, però Alessio, non si, non, lei ha ancora degli anni davanti adesso, per carità, non sarà giovanissimo neppure così, non pensi alle cose più brutte. Anni. Appunto, non pensi, io ce ne ho 50, mi raccomando, la vita ancora è lunga, non è che ha pensato, non pensi a cose brutte, non pensi a cose brutte. Io glielo dico subito, io stasera che ho saputo la notizia avevo deciso di buttarmi dal terrazzo di casa. Oh, mamma. Poi siccome che ho fatto una promessa a mio figlio, gli ho detto finché non avrò giustizia io non mi fermerò. Allora io auguro a queste persone una cosa sola, sì, che mi prende un infarto muoia prima che possa fare giustizia, perché finché c'ho fiato e c'ho forza io non gliela darò vita. Sì, ho capito, ma non è che si vuole fare giustizia da solo, lei dice giustizia, giustizia in tribunale, no, in tribunale. No, certamente finché non avrò giustizia, okay, voglio che in questa sede, in questo momento, le autorità, che pare che... Ma il primo responsabile, secondo lei, il primo? Se quel, il sindaco di Farindola è il primo, e anche l'ex sindaco che ha fatto delle dichiarazioni ieri che lui davanti a questa disgrazia, con un fratello morto, pochi giorni fa ha dichiarato che oggi si taglierebbe il braccio al posto di firmare quelle concessioni. Ah, quello che ieri ha fatto costruire l'albergo, dice lei. L'ex sindaco. Sì. Ieri invece ha dichiarato, ieri tutta la preoccupazione sua in televisione, cioè sapete qual è stata? Che il paese è distrutto perché hanno perso 20 posti di lavoro a tempo indeterminato. Beh, insomma, questo mi sembra... Lei si immagini questo signore con un fratello morto, con 29 vittime, mi va in televisione a dire che oggi il paese è distrutto, hanno perso 20 posti di lavoro a tempo indeterminato. Cioè, ma io da padre posso sentirmi queste cose? No, lei che pensa? È uno schifo, una vergogna questa roba. Una vergogna. Io oggi vorrei avere 100 miliardi di debiti ma non avere mio figlio morto. Lei ha fiducia nella magistratura o no? Io ho sempre avuto fiducia nella magistratura. Però è anche l'uomo che deve stare vicino alla magistratura. Cioè bisogna pungolarli, le dice, bisogna stare là, bisogna stare là a dire non... Secondo me se la storia viene chiusa, non se ne parla più, chiaramente lavorano più rilassatamente. Va bene, signor Feniello, grazie, la ringrazio molto, buonasera. Grazie. Prego, buonasera, prego, grazie. Buonasera. Vabbè ragazzi, andiamo in provincia di Venezia, vai Salvatore, vai. Salvatore, questo è incazzato nero, il padre, il padre di uno dei morti, si voleva ammazzare, così ha detto, mi volevo buttare dal balcone, buttare dal balcone di casa, poi dice adesso voglio ottenere giustizia per mio figlio. Questo c'ha anche ragione. Vabbè Salvatore, che dobbiamo fare? Buonasera, niente, io volevo interferire con Parenzo. Come si chiama questo signore? Si chiama Salvatore. Salvatore. Sì, abito nella provincia di Venezia. Vabbè, questo d'accordo, lei ha fatto la normale di Pisa? No, perché? Scusa. Non posso interloquire. Nuovo corso. Hai studiato, ha fatto la normale di Pisa lei? Ho solo la terza media, tranquillo. È un normalista? No, non ho capito. Se ha fatto la terza media non ti può parlare, non ho capito. Tu adesso, proletario, no, teoricamente di sinistra, eccetera, non può parlare. Ho detto che volevo telefonate da parte dei miei amici della normale di Pisa. Invece ti accontenti di uno di terza media, aspetta un attimo. No, ma non è per quello, perché adesso ti chiama Donato. Va bene, andiamo avanti, dai. Ma quanto è bello vederli rosicare sti radical chic del cazzo. Ah, grande Donald, falli rosicare. La Zanzara. Giuseppe Cruciani, sono sempre io, Vincenzo da Caserta. Te le sei cambiate oggi le mutande? No, amico mio, sono le stesse più o meno da un paio di giorni. Siamo arrivati a due giorni, forse tre. Fermi, torna Radio Padania, il peggio di Radio Calabria. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, ascoltatori, guardavano. Ciao Sammy, sono Ayman Padania Libra. Uè Ayman, ciao. A Salonno due settimane fa è entrato un marocchino in chiesa verso mezzogiorno, ho urlato Allah Akbar, tutti quanti hanno detto quello del bidin, questo è malato di mente, non è malato di mente. Quello dei marocchini lì, come gli altri, devono tornare a casa dentro una tomba, non è tornare a casa così. Un extracomunitario contro i marocchini, devono tornare a casa dentro una tomba. Se noi mandiamo via Trump come vogliono i diritti umani, mettiamo un altro con il voto del popolo come a Trump, allora Trump non è Babbo Natale, ha messo Trump così, qualcuno ha votato lui, loro devono aspettare la democrazia. Badania Libra, viva la Lega, Sami! Ci sono anche i convertiti, eh? Cioè i convertiti alla Lega, eh? Cioè, sì, uno, infatti lo intervistano. I convertiti. Infatti lo intervistano. Barin, far entrare in discoteca 30 africani come far entrare 30 gay. Ma che vuol dire? Cioè... Ci vuole comunque una certa selezione. Allora, fai entrare 30 africani uno dietro l'altro in discoteca. Tu dici, perché c'hanno la pelle nera? Cosa c'è di male? Eccetera. È come se tu mi dici, facciamo entrare 30 gay uno dietro l'altro in discoteca. Dipende, c'è gay e gay. Ci sono i gay, ma ci sono anche le checche, ok? Sono due cose differenti. Come se io adesso vedo una bella ragazza e al posto di salutarli dandogli la mano, la saluto dandogli una pacca sul culo, ok? Ma questo qua è impazzito. Cioè, questo è completamente pazzo. Cioè, è completamente. Ci sono i gay e ci sono le checche. Ma che vuol dire? Aspetta un attimo. Che? Comunque, guarda, da Ovada a 20 miglia non prende un cazzo Radio 24, eh? Saranno le gallerie, ma anche no, insomma, no. Radio Maria prende benissimo, voi no. Padania bella e poi Varin se la prende con noi. Ma adesso salutiamo anche quelli sfigati della Zanzara. Stanno perdendo ascolti ogni giorno, signori, non li caga più nessuno. E i suoi ascoltatori, gli ascoltatori di Cruciani, di Parenzo, girano, semplicemente girano. Dove? Su Radio Padania Libera. Sì, sicuro, guarda, abbiamo sotto mano dei dati da questo punto di vista che confermano l'analisi di Varin. Sicuro, guarda, sempre più ascoltatori su Radio Calabria, non Padania Libera. Radio Calabria fu Radio Padania. Dai, Varin, su, dai. Non mi costringere a essere sgradevole, non mi costringere a essere sgradevole. Enrico da Milano, vai. Sì, dimmi. Pronto? Dimmi. Sì. Ecco, io certo parlare di merda, allora dice comunque. Beh, parlare di merda, parliamo di bidet, amico mio. Abbiamo parlato per qualche secondo di bidet. Abbiamo fatto un'intervista col signore, col padre di una delle vittime, incazzatissimo col mondo. Che cosa vuoi di più? Cerchiamo di stemperare. Comunque, allora il bidet. Ah, roba, allora, avevi detto ieri che. Non si sente niente, mi hai rotto i coglioni. Fabio da Milano, via, dai. Via. Fabio, niente. Vincenzo Padova, dai. Vincenzo. Ciao, sono Vincenzo da Padova, buonasera. Lo sappiamo, sì. Parenzo, io vedo che qui a Padova è iniziata la campagna elettorale. Sì. Non vedo i tuoi cartelli, però. Cioè, stiamo lavorando con il comitato elettorale che si è formato da Abdel Abdullah Glamma. È un comitato elettorale formato da idee diverse. Elettorale. Sì, ci sono diversi compagni, pezzi della società civile, cattolici, moderati. Guizza, non so se conosci. Alla Guizza, che ce ne frega, noi alla adesso Guizza ci arriva anche il tram, alla Guizza, che adesso ce ne frega? Però faremo proseguire. Sì, Vincenzo, ma che ce ne frega a noi? Poi lì c'è il cinema Porto Astra, famosissimo. Ho l'opportunità nella vita di parlare col futuro sindaco di Padova, quindi io colgo l'occasione. Tu potresti far parte della cosiddetta squadra dei volontarosi, che è quella che stiamo mettendo in piedi. Al di là di questo, che vuoi, Vincenzo? No, ho chiamato per questo, che qui a Padova è iniziata la campagna elettorale, non vedevo Parenzo, quindi ma perché che me ne frega, scusa, chi vuoi se ne Parenzo, frega di Padova? Sì, ma ancora deve iniziare la campagna elettorale, vedremo se si candiderà. Ma stiamo lavorando, ma cartelli qui Padova è piena di cartelli, tra poco arriveranno, già sta girando destra e sinistra. Sì, Salvatore, provincia di Venezia, dai Salvatore. Salvatore, eccomi. Vai, dimmi con calma. Allora, io volevo dire una cosa a Parenzo, per quanto riguarda Vanna Marchi. Sì, perché sì. Non si deve reintegrare, visto che ha pagato il suo debito? Perché si è già reintegrata. Si è già ampiamente reintegrata, ha aperto un locale con l'adorabile figliola. Non capisco perché non possa andare in televisione. Non ha certo bisogno di andare pagata all'Isola dei Famosi a vendere noci di cocco al maggior prezzo possibile. Lo deciderà lei. Ma non vende niente. Lei è stata sempre in televisione, quello è il suo mestiere. Perché non deve andare? Allora, io sono un ex detenuto. Sono un ex mafioso. Sì. In che senso un ex mafioso? Dico ex, veramente, nel vero senso della parola. Quale reato ha commesso, se è lecito, caro amico? Quanto che è stato in galera? Scusa, sì. Salvatore. Io ho fatto 16 anni. Quindi ha fatto qualcosa 20, di sangue. Me ne avevano dato 22 e ne ho fatti 16. E qualche reatuccio di sangue ha fatto? Due omicidi. Due omicidi, beh, d'accordo. Buono, bene. Buono, grazie per aver chiamato la Zanzara. Grazie molto, intanto. Questo è buono. Grazie. Questo è buono. Questo è buono. Grazie. Salvatore, scusa, come quindi facciamo il punto. Abbiamo un signore che è stato in galera, che vabbè, ha scontato una pena, ha scontato... che ha commesso due omicidi. Due omicidi, no? Sì. Dico bene, corretto? Appartenente, sì, mi sembra, alla mafia, no? Sì. Lei era, come dire, affiliato a qualche cosca, o sbaglio? Sì. Ma anche Madonia. Madonia. Ah, Madonia. Benissimo. Oh, beh, ma finalmente un po' di autorevolezza. Benissimo. Ma perché? Che c'entra? No, perché voglio dire, altri invitano, no? Guarda che non me ne sto vantando. No, no, ma siamo d'accordo. In altre trasmissioni chiama Federico Rampini, Zucconi. Benissimo, andiamo avanti così. Ma qual è il problema? Non ho capito. Salvatore, scusa un attimo. Salvatore, come le hai uccise queste persone, queste due persone? Uno è stato bruciato. Uno è stato bruciato. Gli abbiamo sparato. Quello bruciato, esattamente, come è andato? No, giusto per capire la dinamica, visto che siamo. L'avete bruciato vivo o l'avete prima ucciso e poi bruciato? Prima ucciso e poi bruciato. Ah, d'accordo, prego. Allora prosegua. Lei cosa pensa della riforma della legge elettorale? Ma della cosa sentenza? Non si può trattare così una cosa così, capito? Ma come? Perché, scusa. Ma scusi, domanda di cruciale. Allora, ma esiste una frocia all'interno della vostra organizzazione? Scusa, no, adesso chiediamo, facciamo tutte le domande. Esistono gay? Esistono mafiosi gay? Certo. Ecco, anche questo abbiamo fatto. In che percentuale, scusami? In quale percentuale? Cioè, non lo so, ma... Esistono mafiosi omosessuali, diciamo, no? Certo che esistono mafiosi. Cioè, lei è a favore della Brexit? Ma chiediamo tutto a questo punto. Adesso, chiediamo tutto a questo punto. No, scusami, Salvatore, adesso facciamo un po' il punto però della situazione. Allora, tu hai detto, sono stato affiliato alla mafia per tanti anni, hai commesso due omicidi, uno bruciato, in realtà non è che l'avete bruciato, l'avete ammazzato e poi l'avete bruciato, cioè avete fatto scomparire il corpo praticamente. No, vabbè, poi è stato ritrovato. È stato ritrovato bruciacchiato. E poi un altro invece, ma tu materialmente hai premuto il grilletto? In uno sì. In uno hai premuto il grilletto. Nell'altro... Ma hai fatto anche poco, diciamo, da questo punto poco, di vista. Ma che dici poco? Ma è una cosa gravissima. Hai fatto poco, 16 anni di galera. Ah, certo, bravo. Beh, ho fatto 16 anni perché, diciamo, mi sono comportato, tra virgolette, bene. Non ti sei pentito? Sì, certo. Hai fatto... ho fatto arrestare molti affiliati. Quindi un collaboratore di giustizia, sì. Però non è che i collaboratori di giustizia non è che chiamano così, si scoprono. No, appunto, sì. No. Io non ho fatto nessuna... Non ho fatto il collaboratore di giustizia. Non ho avuto nessun privilegio. Ho fatto le mie deposizioni e me la sono cavata da solo. Ah. Ho pagato il mio conto con la giustizia. Abiti adesso, non abiti più in Sicilia. Non abiti più in Sicilia. Non abito in Sicilia, esatto. Ma non hai paura che ti riconoscono e ti ammazzano? No, è finita. Vabbè, è arrivato a sto punto. La cosca dei Madonia. Dai, hanno ammazzato un sacco di gente, Salvatore, no? Sì. Vabbè, una merda, insomma, uno schifo. Dai, la mafia fa schifo, diciamo la verità. Diciamo, certo, no? Fa schifo. Oh. Allora, fa schifo. Tu stai dicendo, siccome io ho pagato il mio debito con la giustizia, eccetera. Io, no? ho solo un debito da pagare. Qual è? Con Dio, con la mia coscienza. Ma quello però è una cosa mia, sì. Non devono essere gli altri a dire tu questo lo puoi fare. Tu dici perché per esempio fare. Io non anch'io potrei andare all'isola dei famosi, non sei famoso, anch'io potrei andare in televisione, no? Potrei partecipare, esatto. ho pagato, perché no? Perché no, esatto. Beh, succederebbe un casino naturalmente. Tu dici le Marchi hanno pagato quello che devono pagare e vanno in televisione, non c'è niente di strano. Non c'è bisogno che vadano in televisione perché sono state già reintegrate nella cosiddetta società, hanno un loro locale, che bisogno hanno di riportare? Ma che te ne frega loro... te, ma se loro vogliono andare in televisione? Perché penso alle vittime, non c'è bisogno, non è una pena ulteriore. Non è morto nessuno, guarda che non è morto nessuno. No, veramente gente che è stata malissimo, con cui loro hanno giocato con la vita di persone, quelle lì. Giocare con la vita delle persone è quando comunque adesso lei può avere l'opinione che vuole. Beh, secondo me non è la fine del mondo se non vanno, come è accaduto, all'isola dei famosi. Non succede niente, fanno un'altra cosa, però non le rivediamo in televisione a vendere. Scusa, le però questo abbiamo capito, quello che pensa Salvatore delle Marchi. La cosa che voglio chiedere a Salvatore è un'altra. All'epoca, quando hai ammazzato quella persona premendo il grilletto, che sensazione si provava? All'epoca, naturalmente, che sensazione hai provato? La mia sensazione è sempre stata quella di un rimorso. No, adesso, ma all'epoca che cos'era quella? Eseguivi un ordine? Ero al lavoro. Eri al lavoro? Ero al lavoro. Cioè, non allora, in Sicilia, 30 anni fa, due cose potevi fare. O il carabiniere o il ladro. Vabbè, adesso non è proprio così. Beh, cioè, sì. No, sto dicendo 30 anni fa. Non sì, sto ma non è vero, questa era la classica scusa. Ti dice o entravi nello Stato oppure facevi di contro lo Stato. Ma dai, tu ci abiti. Ho anche abitato. Mio nonno c'era un sacco di gente su, che non faceva né il carabiniere né il ladro. Dai, su. Che stai a dire? Allora, ci sono due facce alla Sicilia. Quella della gente onesta, che i coltivatori, l'impresario, quello che è. Che però vabbè, adesso non facciamo facile sociologia. La cosa fondamentale che tu dici è che tu hai facevi ieri era un lavoro per te. Nel mio territorio, per me e per tanti altri, era un lavoro. Era un lavoro? Vabbè, Salvador, ciao, t'abbraccio, ciao. Parenzo, la donna che paghi meno è la donna che paghi subito. Quindi non chiamarci miserabili, siamo soltanto un po' venali, via. La Zanzara. Cruciani, ma che bidet hai? Ma come fai a aprire e chiudere i rubinetti se ti sono dietro la schiena? Faccia al muro, che ti lavi il culo e anche l'uccello. Ragazzi, io in quelle poche volte che caco dopo la doccia, quindi io come Parenzo se la faccio prima della doccia, poi mi faccio la doccia, quindi non lo uso, ma in quelle poche volte che la faccio dopo la doccia, io lo faccio faccia al muro, perché ovviamente, e Parenzo sarà con me su questo, con praticamente il getto d'acqua sul davanti mi sciacquo ovviamente il pisello, perché tu Giuseppe non so te, ma io quando faccio la cacca faccio anche la pipì, e quindi mi devo sciacquare il pisello col sapone e tutto, e poi mi lavo il culo. Giuseppe, ho provato a fare la pipì nel lavandino, ma non ci sono riuscita. Via Parenzo, via Cruciani ed il loro amore saffico. Ora gogna quei villani che guidando creano traffico. La Zanzara. Poi Parenzo mi devi spiegare. Parliamo di figa, non è la mia parrocchia. Parliamo del Papa, non è la mia parrocchia. Parliamo di mignotte, non è la mia parrocchia. Parliamo di maiale, non è mia parrocchia. Do cazzo sta sta parrocchia tua? Che cazzo fai su sta parrocchia tu? Allora ragazzi, dove andiamo? Paolo, provincia di Macerata. Vai Paolo, vai. Buonasera, vai. Buonasera. Dimmi. La Vanna Marchi è insieme alla sorella lì, alla figlia. Figlia. E al, diciamo, a quel grande testa di cazzo di mafioso che avete intervistato adesso, e magari insieme a tutti gli zingari ladri che ci costano. Non so se voi siete stati mai, avete mai parlato con un qualcuno della polizia penitenziaria. Sì, costano 300 volta, euro al giorno, 10.000 euro al mese questi bastardi che stanno in galera. Ma questi ad bastardi outfit, chi? Scusi. Visto che lì c'è tanto spazio, dentro i forni vanno messi. No, che dobbiamo pure insegnare a non fare niente in galera, inchiappettati. Un momento. Allora, abbiamo Paolo, il nome e il cognome di questo, Paolo, vero? Paolo dalla provincia di Macerata. Dice abbiamo che, anche il numero, no, di telefono, ha fatto vero? Un mischione, Vanna Marchi. Quello che ha chiamato, no, prima il mafioso omicida. Questo, i rom bastardi vanno messi ad Auschwitz, che però non è più in attività, ti voglio segnalare, signore. Lo possiamo aprire, l'hanno ristrutturato. Tanto abbiamo il numero di telefono, vero, di questo signore? Va, sì, vabbè, gli ma estremi che voi, li abbiamo. Che vuoi fare? Questo, che vuoi fare? Lo chiedo solo, gli estremi ma li abbiamo. Abbiamo il numero di telefono, signore. D'accordo? Ottimo, benissimo. Paolo, grazie. Non ho capito, perché andrebbero devono andare ai forni i rom, Vanna Marchi, quello che ha chiamato. Non ho detto i rom. Come no? Prima hai detto i rom. Non è una questione di razzismo, non è una questione. Gli ebrei non dovevano essere messi nei forni, quello è stato un errore madornale. Mamma mia. Sto dicendo che chi va in galera per reati gravi deve essere fucilato, no, che costa 10.000 euro alla società. Mamma mia. Cioè, dunque, perché i bambini in Africa muoiono di fame, quei 10.000 euro pura, li potremmo spendere pura, in Africa. Come in Africa adesso? Ma che c'entra la fame in Africa? C'entra che ogni, in fisica, ogni azione ha una reazione, quindi se tu togli dei soldi a un bambino in Africa che muore di fame per c'entra? Dare per sfamare ma cosa un carcerato mafioso. Ma sei un cretino! Sei un cretino! Chiaro che sei un cretino! No, sei tu che non capisci un cazzo di matematica, e questa è la realtà. Arrivato. Ma il giornalista non a caso. Dai, studia Paolo. Un po'. Ma studiate la matematica. Ma non quale matematica? Ma tu devi studiare la vita, devi studiare il tuo cervello, devi studiare. Devi studiare il tuo cervello. Cosa c'entra la fame nel mondo con... C'entra che se tu fai una scelta, se tu scegli di aiutare un carcerato perché lo alimenti, perché non gli fai fare niente, spendi dei soldi. Quei soldi sono limitati. E invece che bisogna fare con i carcerati? Non li puoi spendere per la sanità, non li puoi spendere per aiutare un vecchio, non li puoi spendere per le cittadini. E quante persone dovremmo ammazzare? Quante persone dobbiamo ammazzare, secondo te? No, ma è una scelta, ma tu lo stai già facendo. Perché non mandando degli aiuti in Africa o non investendo nella sanità, scegli di far morire un anziano rispetto a far morire un carcerato. Cazzo, e dunque? Lo stai facendo, è una scelta, la vita è fatta di scelte. E dunque di la conseguenza qual è? Di quali carcerati ci dobbiamo liberare? Di quali carcerati ci dobbiamo liberare? Allora, magari i pedofili. I pedofili. Magari poi non bastano i soldi. Poi non bastano i soldi. Ma perché non gli fai scrivere un libro su come ha ammazzato gli amici? Chi? I delinquenti, i suoi antagonisti, come li ha ammazzati? Ma chi? E quello che ha intervistato prima. Non fai scrivere un libro, almeno diventa famoso. Va insieme a Vanna Marchi all'Isola dei Coglioni, all'Isola dei Famosi. Scusami, Paolo, però adesso io sto cercando di fare ordine nel tuo cervello, cosa non, cosa non semplice. Vanna Marchi hanno fatto delle truffe. Secondo te, tutti i truffatori vanno giustiziati? Io faccio l'ingegnere adesso, pure, non credo che fare l'ingegnere. Un carcere lì, il poliziotto mi ha detto ma non credo che tu costano 300 euro al giorno, 10.000 euro al mese, chi li paga? Ma 300 euro al giorno? Gli italiani che stanno sotto le tende, che muoiono, le turbine che non facciamo? Perché mancano i soldi, uccidendoli effettivamente risparmi, ha ragione, ma che siamo alla follia. E dunque che facciamo? Facciamo delle scelte. E dunque eliminiamo metà dei carcerati, cioè chi fa dei reati. Da un punto. Ma sono pochi i pedofili, non risparmiamo niente con i pedofili. Se vuoi ammazzare i pedofili. Io sto cercando di seguire la tua follia, ma si risparmiano pochi soldi con i pedofili, amico mio. Con i pedofili. 10.000 euro a persona costa un carcerato al mese. Ma che ce fanno? I pedofili saranno pochi, non è che sono tanti. Pedofili. Vabbè, chi uccide? Chi ruba? Chi uccide? No, ruba è un'altra cosa. Uccide. E chi lo stabilisce? Chi ruba? Va eliminato. Va eliminato chi ruba? Ascolta, va giustiziato chi ruba. Torniamo un attimo indietro. Fa acqua da tutte le parti. Hai un calderone con i soldi dentro, devi scegliere dove allocarli. Allocali, dai, scegli tu. Ma cosa vuol dire? Li dai alla sanità, li dai ai bambini con la leucemia, oppure li dai ai carcerati. Scegli a chi li dai. Vabbè, ma che vuol dire? Ma non c'entra niente. Ma ci sono una parte di soldi che vanno ai carcerati politico, perché altrimenti. Il politico fa delle scelte, alloca i soldi. Allocando i soldi, se da qualche parte mancano. Dunque chi ammazziamo? Chi eliminiamo? Chi ha avuto l'occasione di vivere in un occidente voluto e non ce l'ha chi meritata? Eliminiamo? Chi eliminiamo? Possiamo eliminare tutti quelli che fanno una rapina a mano armata, tutti quelli che fanno una rapina a mano armata giustiziati. Giusto, certo. Perché giusto, se certo. Ti entra uno davanti a casa tua e gli spari, non è prendo i dati, chiamo la procura, contatto l'avvocato, contatto qualcuno, alla è una cosa incredibile. Ma tu invece devi sempre le stronzate, perché a te te paga solo per fare così un po' di caos. Tu caos, non dici nulla di intelligente, questo è il problema tuo. Ti pagano solo lei perché invece ha detto delle cose molto intelligenti. Ma a casa come fai a guardarti allo specchio, Parenzo? Ma come fai? Ma un po' di dignità, ma ce l'hai? Sì. Questo mi ricorda, non parla così, mio amico straordinario avvocato di Sgarbi, ma non come parla, l'accento della provincia di Macerata, della provincia di Paolo. Sì, no, ma questo qui sarebbe anche simpatico, peccato che subirà un processo per... Ma perché cosa? Processo perché adesso stai esagerando, non deve... Quale processo deve subire Paolo, scusami? Quale processo? Beh, hai già delle cose terribili, la riapertura dei campi di concentramento, la lista che io qui ho steso... Ecco, questa cosa di Auschwitz è piuttosto strana, cioè è difficile riaprire i campi di concentramento. Concentramento, Paolo. Ma quella era la provocazione, no? Sì. Era la provocazione per poter dire che facendo delle scelte nella vita, facendo delle scelte, noi creiamo un'azione e reazione. Quindi dunque? Se noi diciamo non diamo più soldi alla sanità perché li dobbiamo dare a Vanna Marchi che deve stare in galera a scontare la pena perché è una perché stronza. La vuoi ammazzare Vanna Marchi? Scusa, perché non ho detto che la voglio ammazzare, però poteva andare a spaccare le pietre o a rimettere l'asfalto sulle strade che sono tutte spaccate, tutte rotte. Vabbè, chiusa la parentesi. Vi saluto e buon divertimento. Siete grandissimi. Cruciani, sei un grande. Ciao, Parenzo, ciao. Un po' di dignità nella vita. Grazie anche a lei e complimenti per le riflessioni che ci ha proposto stasera. Grazie, complimenti anche a lei per la dignità e l'umanità delle riflessioni che ci ha proposto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Le follie canine. Follie canine, ragazzi. Voi non ci credete. Voi non ci credete. Ma esiste anche la psicologa dei cani. La psicologa dei cani, ragazzi. Pronto? Sì, buonasera dottoressa, sono Francesco. Francesco Balzi, salve. Io ho un piccolo problema, nel senso che mi sto separando dal mio compagno e il nostro cane, che è un cocker, è ultimamente proprio è strano, mostra dei disturbi, fa sempre la pipì in casa, cosa che prima non aveva mai fatto. So che lei si occupa di psicologia del cane, no? Sì, sì. Lei da dove mi chiama? Io chiamo da Firenze. Ah, ok. Beh, comunque la cosa che mi interessava capire è se è possibile intervenire, perché veramente è strano il nostro cocker. Ma, nel senso, è successo qualche cosa? C'è stato un cambiamento Guardi, di casa? Guardi, io e il mio compagno Giuseppe ci stiamo separando e abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse ormai da 3 mesi. Litighiamo. Quindi il cagnolino quasi ogni è rimasto giorno. Nella solita casa o ha cambiato? Noi siamo ancora nella solita casa, ci sono ogni giorno discussioni, litigi e ovviamente lui... Sì, no, lui dovrà venire a stare con me, dovrà stare con me. Si può fare un incontro, si può... Sì, allora, un incontro si può fare, così perlomeno, perché ora così su due piedi bisogna che il cane un pochino lo veda, poi sicuramente... Ma che tipo di... perché guardi, veramente era dolcissimo, tenero, ora abbaia in continuazione. No, allora, probabilmente sente anche un po' lo stress della famiglia, perché anche loro lo sentano, non è che è logico... Assolutamente sì, quando si cominciava ad alzare la voce o comunque anche noi stessi siamo più agitati e quindi ci rivolgiamo anche a lui, anche se magari non ci sembra. No, no, lui diverso. È sempre, lui dorme ai bordi del nostro letto come me sempre, lo immagino. Però, ma guardi, però non so. Però voglio capire, cioè, si può parlargli al cane, si può creare una specie di transfer, non lo so come che si fa con gli umani. Il cane è molto più semplice, quindi poi in realtà va visto, ma probabilmente non ci sarà nemmeno bisogno di fare una terapia. Una terapia va fatta forse, una terapia, no, cioè no, parlargli. No, le dico, no, secondo me non c'è nemmeno bisogno, il problema è aiutarlo a superare questo momento. Il cane, il cane. Esatto, e non so quanto più o meno sarà lungo, e aiutare anche voi a gestire la situazione. Probabilmente il vostro comportamento anche in casa lo destabilizza, ci deve destabilizza essere qualche il cosa. Cane. Se lei mi dice che prima le cose non le faceva e ora le fa, adesso un po' le fa, abbaia, abbaia, abbaia, suona il campanello e abbaia, abbaia, abbaia. Ma abbaia anche, io lo vedo anche dagli occhi, cioè come si esprime. No, no, certo, probabilmente ha uno stress, un livello di stress un pochino alto. Non gli abbiamo neanche tagliato la coda noi, cocker. Gliel'abbiamo lasciata. Bella, no, mica facciamo dove quelli da caccia. No, me l'ha regalato mia suocera. Francesco? Sì, sono al telefono con la psicologa, aspetta, te lo passo. Aspetta, Giuseppe, mamma mia. Oh. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Giuseppe, salve. Buonasera, salve. Buonasera. Le ha spiegato tutto, credo, Francesco, no? Sì, mi ha detto che il cane vostro ha un pochino di problemi, sì. E ho detto valutiamo un pochino. il cane ha delle risorse potenziali in se stesso, quindi è probabile che sia un momento. Sì, gestire la situazione come se fosse un figlio, diciamo. Come fosse un figlio. Esatto, esatto. Cioè, se lei mi dicesse: io ho un figlio, mi sto separando, e il bambino ha ricominciato a fare la pipì a letto, le direi la stessa cosa. Il bambino in sé non ha un problema, sì. Nel senso, il problema è venuto da una mala gestione di un momento della vita. Lo so, stiamo litigando troppo, il cane ne risente, evidentemente. Succede, lo so, ci prendiamo a parolacce. Tutte queste cose allora, qua. Ha maggior ragione, le dico quello che direi. Se lei dice che figlio, le parolacce non vanno dette davanti agli animali, dice lei. Magari moderare i termini, calmarsi un pochino, ridimensionare un po' il tutto. Fa bene a lei, cioè fa bene al cane, ma fa bene anche a voi. Va bene, grazie. In questo grazie. Caso lo proverei. Grazie, grazie. Arrivederci. La chiamiamo, grazie, grazie. Ho capito, caro Davide, che bisogna moderare i termini davanti ai cani. Psicologo perché altrimenti, cani. Amico mio, altrimenti davanti ai cani ci può essere un trauma. Si possono provocare. Cioè, non bisogna dire troppe parolacce davanti ai cani. Psicologo dei cani. Perché anche i cani possono subire dei traumi. Se uno dice testa di cazzo, pezzo di merda, eccetera. I cani possono subire dei traumi, amico mio. Ma è tutto finito, è tutto finito, il mondo sta per finire. Oggi ho letto un servizio in cui c'era lo smalto per i cani. Ragazzi, l'apocalisse sta arrivando, sto rivalutando Parenzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Cruciani, mio fratello Elia mi ha sgridato perché ho detto di voler essere torturata da te. Vabbè, amica mia, adesso torturata che vuol dire? Dai, su, torturata. Mi sembra esagerato, Parenzo, torturata. Guarda, mi sembra la testimonianza meno forte rispetto a quello che abbiamo sentito oggi, dove nell'ordine hanno chiamato un personaggio legato alla mafia, alla malavita organizzata, che ha rivendicato di aver bruciato addirittura il cadavere di una persona che è stata uccisa. Poi i razzistelli in ordine sparso hanno chiamato, come al solito, quelli ormai non mancano mai, non è neanche più una novità, no? Poi abbiamo trovato una psicologa dei cani, no? Ancora ad aggiungere al nostro menù, al nostro circo esattamente. Barnum del giorno. Cioè, qual è oggi qual è il menù oggi di questo ristorante? Qual è il menù? Ma guarda, te ne farà una serie di criminali. Poi una serie di soliti razzisti, camere a gas. Vabbè, questo è normale, ma non ci si scandalizza più. Questo è ovvio, no? Però, quando torna a casa, chi ha chiamato oggi? Ma di guarda, ha chiamato uno che vuole riaprire la camera a gas. Ah, vabbè, d'accordo. Cioè, ormai non fa neanche più scandalo, capito? Quando lo racconto. Interviene Carlo Conti sulla questione dei compensi di Sanremo. Sì, basta anche questa storia di Conti, poveretto. Ieri da noi si è incazzato come una belva, ha detto un compenso indegno, è una vergogna, uno scandalo, eccetera. Carlo Conti ce l'abbiamo, Carlo Conti? No, nemmeno, no, non ce l'abbiamo ancora Carlo Conti. Ha detto che darà una piccola parte, ah sì, questa è la notizia, darà una piccola parte del suo compenso ai terremotati. E cede ai populisti, cede alla vergogna di questo attacco. Sì, mi pare. Ma che vuol dire? Piglia dei soldi, lavori per pigliare, devi dare una piccola parte ai terremotati, no, per farsi ma soprattutto bello. Non occorre che lo per dica, bello, cioè dai. Non occorre dirlo, però farsi bello è che questa roba qui è frutto. Dice che non lo voleva dire, non lo voleva dire, però tutte le critiche di questi giorni lo hanno costretto a dirlo. Carlo Conti è una cazzata, è una minchiata, una lo hanno massacrato, non hanno c'è messo bisogno in mezzo, dei tuoi soldi ai terremotati. I terremotati non hanno bisogno dei tuoi soldi. Hai guadagnato quei soldi, pensi di averli guadagnati bene, tieniti i soldi. Beh, certo, e non Michele. Ci fare adesso per le critiche, non mostrare, capito? Io do i soldi ai terremoti, non c'è il bisogno, fianco, non dici. C'è bisogno, non c'è bisogno, dai. Andrea da Napoli, dai. Oh, Andrea, dimmi. Poi stai calmo, non ti incazzare subito. Ma chi si incazza? Dimmi. Senti, ti volevo dire, stasera secondo me l'hai fatta fuori dal vaso ancora una volta. Ma in che senso? Dai, non mi rompere le balle pure tu, dimmi, dai, che c'è? Allora, nel senso che cercare di provocare quel padre che ha perso un figlio è proprio una cauta di stile proprio di quelle... No, ma nessuno ha provocato delle domande, nessuno, dai, su questo caso. È incazzato da solo, non c'è bisogno che lo incazzo. Nessuno ha provocato. Non c'era bisogno che lo incazzassi io, non dai, diciamo sciocchezze per forza. No, gli volevi per forza tirare da bocca qualche frase effetto, tipo che sono dei pezzi di merda quelli del governo. Vabbè, ma l'aveva già detto 40 volte, dai, su, dai... Vabbè, comunque secondo me in alcuni casi bisognerebbe fare un passo indietro, anche un... Fare un passo indietro? Ma che stiamo al coso? Che è la RAI questa qua è la Zanzara, mica la RAI. Sì, ma un discorso fare è quando chiama Otelma e lo fate sconnettere, oppure quando chiama qualche altro squilibrato. Questo è il regno della libertà, facciamo il cazzo che ci sì, pare. Ma tu ti rendi conto anche che non delle cose più anche... grande di quello va bene, che ha subito quell'uomo? E allora... tu vuoi farlo impazzire facendolo arrabbiare? Ma quello è impazzito da solo già, hai visto che si voleva ammazzare, ha detto, si voleva ammazzare. Secondo te invece faglielo dire in diretta e fagli rivivere questo stress ulteriore, una cosa fatta bene. Per cui non bisogna intervistare quest'uomo, secondo te? Non bisogna sentirlo. Sì, ma intervistarlo per magari capire il suo dolore, non per fargli dire qualche frase. Me lo devi dire tu come intervistarlo adesso. Dopo anni e anni di intervista arriva Andrea da Napoli che dice no, l'intervista non va bene. Perché tu volevi fare impazzire della mia parlata. Volevi fare, ma è una parodia. Perché vedi che fai, questa qua non è una trasmissione normale. In cui noi perché sto sicuro. E allora mi diverte sentire quel campionario di pezzi di merda che chiama. Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo anche tu stai questo... chiamando però, ti metti in mezzo ai pezzi di merda. Ma per forza, a furia di sentire voi, uno per forza si rincoglionisce e arriva a pisciare nel lavandino. Caro Andrea, io accetto le tue critiche. Ma no, veramente io non ho mai pisciato nel lavandino. Comunque, caro Andrea, accetto le tue critiche. Vabbè, poi ti pisci in testa, visto il livello di igiene del tuo capello. Vabbè, stai tranquillo, puoi pisciarmi in testa come vuoi, anche una volta. No, ti pisci una volta da solo in testa. Vabbè, bene, sì, sta va salendo bene, il livello, bene, mi pare. Andrea, puoi dire quello che ti pare, però ti dico, io aggiungo una cosa. Hai fatto la tua critica, registro e vado avanti. Ti ringrazio, ciao. Va bene, vai a fare in culo. Me lo fare sbroccare. Allora c'è un ristorante a San Giovanni Teatino in Abruzzo. San Giovanni Teatino in Abruzzo. Lo conosco. Io leggo Razzi, Podazzi. Terremoto, le super dotate della pecora nera fanno sold out con le tette. In che senso, scusami? Il locale goliardico di San Giovanni Teatino in Abruzzo fa affari d'oro. Il segreto è Escile. Cioè, ci sono tre persone che lo gestiscono. Sì. Una è una tale Marilena Di Stilio, fondatrice di questo ristorante, che sostiene di fare affari con le tette enormi. Importante, la figlia pure pare che sia una superdotata, e c'è anche una trans tra queste tre. Sì, ma questa simpatica compagnia di giro che cosa fa esattamente? Non lo so, è un ristorante. E quindi l'attrazione sono queste tre gentili signore, non esatto. Ho capito. Pare di sì. Ma cosa fanno? Servono da mangiare? Servono anche dei servizi? Servono da mangiare? No. Non è che se ci avete grosso. Ma non lo so io, ma non capisco. Mohammed Parma intanto. Mohammed, vai. Mohammed. Pronto? Dimmi, Mohammed. Salam aleikum, Mohammed. Aleikum salam, David, shalom. Vai, ciao, shalom. Fratello, shalom. Tu essere islamico? Tu Islam? Essere... Ecco. Zibadrone. Ti ha preso in giro, vedi? Bravo. Vai, Mohammed, che cazzo devi dire? Dai, perché hai chiamato qui? Ma perché dici così ho chiamato a lui? Per rispondere agli anti... Fammi la preghiera, dai, fammi, io sono fissato adesso. È un mese. No, aspetta. Fammi la preghiera. Allahu Akbar. Ma ce ne sono centinaia di preghiere. Allah, sempre Akbar. Come fa quando preghi? Tu preghi ogni tanto? No. Non preghi mai tu? Ma tu, capitano qua tutti quanti islamici così all'acqua di rose. Cioè voi siete islamici finti, non pregate, mangiate il maiale, fate no, qualsiasi cosa. Io non mangio il maiale, veramente. Io non mangio, ecco, qua sento, io non mangio maiale. E non preghi. No, però. Io ho detto non mangio, no. Tu dici, hai detto no, non mangio, no, non mangio. Io detto, non mangio. Mangio. Ma perché lo prendi in giro come mangio. Parla? No, ho capito, ma tu fai qualche cosa, cioè, voglio dire... Ogni tanto una preghierina la fai o no? Sì, sì, sicuramente. E come la fai? Come fai? Fammi una preghiera, dai. Una preghiera. Fammi una preghiera. Praticamente l'apertura del Corano dice: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhalin. Amin. Praticamente che cazzo vuol dire, amico mio? Vuol dire, cioè, è un po' difficile tradurre il Corano. Capisci quel problema? Uno può anche dire: il problema vero è che uno può anche dire squarto, voglio squartare tutti gli abitanti. Ma come fai a saperlo? È complicato. Ma perché dovrebbe dirlo? Ma andiamo avanti con la preghiera. Ma intanto hai buttato lì la cosa, no? È rivolta a Dio di dare. Di illuminarmi, di mettermi sulla retta via, eccetera, eccetera. E non arrivi mai a fare Allahu Akbar? Mai? No, Allah Akbar si dice anche quando ma come io si vedo dice? Per c'è esempio anche un'intonazione nel dirlo, no? Allahu Akbar. No, quando si sente c'è un'intonazione particolare in cui uno lo può dire o no? Beh, dipende. Dipende. Tu quando lo dici come lo dici? Allahu Akbar. Così, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poi un'altra preghierina, vai avanti con la preghiera. Quando inizio, ma no, vorrei parlare del bidet io adesso, dai. Io vorrei. Salvini dice che tu praticamente appartieni a una religione di morte, capito, Mohammed? Cioè, eh? Signor Salvini dice che la tua religione è una religione di morte, una religione di violenza. Ma non è vero. L'Islam è una religione di pace. Islam vuol dire pace. Come diceva Parenzo, Islam pace, noi essere popolo di pace. Ma no. In effetti io ho collegato praticamente il tuo argomento preferito, che stasera è il bidet, sì, per rispondere ai diciamo i leghisti. Cioè, che vuoi dire? Spiegami, qual è il collegamento? Spiegami il collegamento è questo, che noi, seguendo le orme di Maometto, sì, praticamente noi, anche quando facciamo una puzzetta, sì, dobbiamo lavarci il culo tre volte. Perché questo tutto è buono, questo è buono. Tu lo sapevi, Parenzo? Certo, perché loro anche prima di entrare in moschea si devono lavare dietro le orecchie, i piedi, le mani. Cioè sono un popolo estremamente pulito, perché per rispetto a Dio loro si lavano. A differenza tua, che sei un infedele, tu Cruciani, sporco, puzzolente, che non ti fai il bidet, e quindi sei davvero un infedele in questo. Allora io voglio capire una cosa. Tu stai dicendo, Mohammed, che all'interno dell'Islam ci sono delle prescrizioni precise per quello che riguarda non hai mai pulizia, visto i bagni fuori dalle moschee, scusa? Le abluzioni fuori dalle moschee? Non frequento le moschee. Male. Scusami, non frequento le moschee. Ma non sapere che fuori dalle moschee ci sono tutti i per esempio, bagni. Per un islamico come te, il bidet come si fa? Questo è interessante. Allora, il bidet non è contato nell'arco della giornata. Dunque, non ti fa il bidet? No, si fa, per un musulmano si fa finché dorme praticamente, e il giorno dopo si fa tutto il giorno, praticamente si fa l'appetito. Ve lo fate il bidet o no? Sì, altro che, lo facciamo parecchie volte al giorno. Parecchie volte, e con che mano? Mano destra? Con la mano destra, sì, che è mancino poi lo fa con la mano mancina, scusi. Ma perché non ho capito qual è il collegamento che volevi fare, cioè tra la praticamente, se per un musulmano che fa una puzzetta, sì, e si deve lavarsi il culo subito si deve andare subito, a pulire subito. Tre volte, cioè tre se volte. scorreggi devi pulire subito, capito, dai, adesso tre volte, ma se uno sei fuori se sei in mezzo alla strada come fai, scusa? Ti devi appartare, ma tu guarda che sono strani questi qua. Ma sono strani, sono puliti. Ma guarda anche che su questo sono puliti. Il primo bar in cui per la strada devi entrare. Cioè, devi tu, fare... musulmano, scorreggi e improvvisamente ti devi andare a pulire. Sì. Ma guarda che sto Maometto era strano, eh. Ma guarda, vabbè, che mi pare è una stranezza. Mi pare una norma di nel grande Corano, tutto ciò è una norma di ma tutto ciò è nel igiene. Corano o no? Tutto ciò è nel Corano o no? Sì. Certo. Nel Corano. Sì. Ma che cazzo, ma è sto profonda... Corano? Ma che è sto Corano? È un libro dove c'è tutto, c'è anche l'igiene personale, cosa che non era scontata all'epoca, ma millenni fa, dai. E non è scontata per te nel 2017, zozzone, come vedi. Ma dai, ma nel Corano c'è pure sto fatto qua, che se scorreggi devi andare a pulirti. Oh, mamma mia, ma certo. Vai, dice... dimmelo un po' in arabo, dimmelo. Dimmelo. L'uatta con il shaitan... cioè la pulizia corporea, sì, fa parte degli angeli, eccetera, eccetera. Dunque tu stai fede. Dicendo che noi islamici siamo più puliti di voi cristiani, o comunque voi, o no? Penso di sì. Su per legge fatto, vergogna, no, vergogna, adesso libero, due punti. Siamo più puliti di voi, siamo più puliti di voi. Dai, Mohammed, però, dimmi. Però io dico ai quelli anti-islamici, no? Che praticamente il mio culo è più pulito delle vostre, delle loro bocche. Sì, questa è una sintesi abbastanza veritiera. Spiegami, cioè il tuo culo è più pulito delle bocche, sì, che bravo, parlano male dell'Islam. Me lo lavo 40 volte al giorno, anche bravo, per una puzzetta. Sì, ma tu non fai così alla fine, tu non bravo sei un musulmano. Proprio no, quelli... però ti ha fregato. Cioè, tu ogni volta che scorreggi ti vai a pulire, Mohammed. Ti giuro, quanto vero di io nella facciamo una bella dove, invocazione nella fabbrica dove lavoro non c'è il bidet. Ho preso una bottiglia d'acqua e l'ho messa lì. Cioè, ma ragazzi, ma siamo incredibile. Scusa, perché, non, giuro, ti, perché non ti stiamo trasmettendo un approfondimento su Islam e scoregge. E no, sì, Islam e scoregge. Questa è la profondità. Però scusa, Mohamed, ti volti un attimo verso un attimo, sempre col telefono in mano. Naturalmente ti volti verso la Mecca. Verso la Mecca e fai una bella preghierina in conclusione. Ecco, voltati verso la Mecca, come ridicolizzare una religione. Vai, Mohamed, dimmi. No, ma poi io prego Dio, guarda, di come si dice, di abolire, di sfasciare i trafficanti di morti. Bravo, e di bravo. Avere sempre la pace su questa terra, perché ne abbiamo veramente bisogno. Sì, ma rivolgiti un attimo verso la Mecca, bravo. Mohamed. Mi sono rivolto, giuro. Rivolgiti verso la Mecca e fai una bella preghiera finale, lì, così donato da Varese. È contento, l'Islam, vai intona una bella preghiera di quelle che si sentono bene, forti, qui, finali, forti, un islamico. Bismillahir Rahmanir Rahim, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Capito, Parezzo? Molto bello, bene, ma grazie. Ma che molto bello, è una cosa assurda, dai, su. Domani su Libero, alla Zanzara parlano in arabo e invocano il jihad. No, ha detto semplicemente buonanotte a tutti, state bene, viva. Fabio da Padova, Fabio, basta, vai, no, che andiamo chiudi. A concludere. Siamo dai. Fuori contratto, sono sì. Già ai 49. Dai, dimmi, veloce, vai, dimmi. Ciao, volevo dimmi. Parlare con Parenzo. No, sì. Non può parlare più, sono i 49, Fabio, mi veloce, spiace. Rapido, vai. Lasciami parlare un attimo, ascoltami. Dimmi. Visto che c'è la possibilità di fare un giorno, un'ora di sci gratuito, giusto? Per gli extracomunitari. Sì. Allora, Parenzo, rifugiati. Visto che tu le paghi le tasse, sì. Anche le... E io sono contrario a pagare le mie tasse, a dare... Mi paghi un'ora di sciare? A me, no, vengo io a farti una lezione, vengo io a fartela gratis. Parenzo, ti chiedo un favore. Vengo io a farti una lezione gratis di sci, perché tu non sai sciare. Con le tue tasse, pago niente. Paghi un'ora, niente. Dai, Parenzo, paga un'ora. Non possono permetterti di andare. Vengo a insegnartelo io. Tu Fabio, te lo puoi permettere? Tu te lo puoi permettere, Fabio? Te lo puoi permettere o no? No, ascoltami, ti dico questo. Dimmi. Ci sono dei bambini che non se lo possono permettere. Bene, signori, Parenzo farà una petizione perché lui con le sue tasse. Tu dici bambini italiani a gratis. Sci gratis anche per bambini italiani. Fermi, a domani. Ciao. Parenzo, sarei anche un coglione. Ma Cristo come Lotti. E dai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.